Antò! Chi è che chi parla? David Parenzo! Oh, ciao, ciao David, come ma stai? Rimortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi? Adesso. Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, mi sto vestito. Guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. No, mi sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fateli cazzi tu, no, vaffanculo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il sistema medico italiano e tutta la struttura italiana ha avuto il risultato che l'Italia è entrata con un enorme numero di persone molto immunocompromesse e molto vecchie che vivevano. Se questi individui non erano in Italia, sarebbero già morti. L'Italia ha pagato tristemente il prezzo di essere stata molto brava a tenere in vita gente molto malata. Se questi individui non erano in Italia, sarebbero già morti. Adrucia, io mi faccio una domanda, no? Ma più che una domanda è una denuncia. Ma com'è tutta sta gente importante che si infetta, Zingaretti e Boris Johnson, il braccio destro di quello, il braccio destro di quell'altro? Come questi non si ammala nessuno, ne escono tutti survelluto, e la povera gente muore. Ma io mi domando e dico, ma come mai sta cosa? Non è un fatto di complotto, magari è un trattamento diverso dalla povera gente, solo quello voglio dire. Ricordiamocene quando andiamo a votare, i mortacci loro. Uscite, c'è il sole, tutte cazzate del coronavirus, andate in giro e ora viene la primavera, si alzano le temperature, se no vanno in giro i negri e i Vukumpra, i Mau Mau vanno in giro, gli italiani stanno in casa a farsi venire le trombosi alle vene, non date retta a Conti, tutti per le vie. Chi era quel cretino di poc'anzi? Ragazzi, il dingo è uscito. Coglione, tu la gente normale non l'ascolti mai. Vuoi sempre solo i coglionazzi come te. Ma cosa aspetta da non licenziarti? E rimetterti in cassa integrazione come facciamo noi, come lo siamo noi che abbiamo lavorato. Noi siamo l'Italia profonda che ti manteniamo infelicemente. Stronzo! Attenzione, il seguente messaggio era rivolto a Giuseppe Cruciani. Possiamo cominciare la trasmissione. Grazie. In collegamento da Roma, David Parenzo, buonasera. Cari amici, buonasera in questo nuovo inizio settimana. Siamo ancora in onda con i miserabili che chiameranno dalle, 20, dalle 18.34 fino alle 20.50 purtroppo. Buonasera e benvenuti. Perché devi tacciare di miserabili quelli che chiameranno d'ora perché in poi? Spiegamelo. Perché? Sai, per quale motivo questo al weekend mondo? Su questo? E ho le mie statistiche, i miei dati, come la Protezione Civile, anch'io i miei dati. Come Gottardo, come il centro studi Gottardo. Come il centro studi, esatto. E ho calcolato che, guarda, ci vado vicino. Il 90.9% delle persone che chiamano qua sono tecnicamente qualificabili come idioti, quelli che chiamano, decisione importante, non quelli che ascoltano, quelli che chiamano. Questi sono gli sondaggi. Negli ultimi mesi la situazione si è addirittura inasprita. Perché fai la voce di capanna? Cioè, non ho capito, perché fai la voce di capanna? Voglio dare un valore scientifico alle parole. Poi tra l'altro che mi sembra tra l'altro che Capanna sia piuttosto infastidito da questo accordo sindacati governo sulle fabbriche, cioè in tempi di coronavirus. Lui avrebbe Vi ringrazio per questa domanda che mi avete chiamato, ovviamente. La questione è molto molto seria. Scellerato l'accordo del governo con i sindacati. I sindacati sono per definizione rivolta. Ora, in un momento straordinario come questo, in cui c'è la gente che addirittura qualcuno dà l'assalto ai supermercati, ma quale occasione migliore per fare la rivolta sociale vera? Quella che abbiamo raccontato, scritto nei libri, predicato, la rivolta contro il capitale. Beh, io lo trovo un momento anche favorevole, perché c'è il favore di una parte dell'opinione pubblica e questi fanno l'accordo governo-sindacati. Ma sicuramente bloccare la catena produttiva laddove, anche in quei pochi posti dove si produce, bellissimo. Bloccare anche in quei pochi posti dove si produce, immediatamente bloccare tutto a gatto selvaggio, interrompere la produzione, cercare di innescare i grandi temi del proletariato, quelli che io ho sempre raccontato dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano, quando ero consigliere regionale, in tutti questi ambiti della mia trentennale carriera politica. La sua politica adesso è fare saltare il paese, questo è Capanna, questo. Naturalmente io sono disponibile a intervenire nei picchetti, vengo, ovviamente viaggio gratis sui treni dello Stato, perché sono un ex parlamentare, ne ho diritto col vitalizio, e quindi sono pronto a intervenire in qualunque luogo della terra, da Trento fino a Racalmuto. Sono pronto a spostarmi, ovviamente con i mezzi, naturalmente, questo ci mancherebbe altro, sono un ex deputato. Va bene, allora io partirei subito molto forte questa sera, caro Parenzo, dopo questa incursione. Dire però una cosa subito. Salvini. Allora, partirei molto forte con Salvini che prega dalla D'Urso, e per i morti. Adesso tu ti scandalizzerai. Liberati dal Luca Morisi che è dentro di te. Luca Morisi sarebbe lo spin doctor di Salvini. Liberati dal Morisi che è dentro di te. Mamma, ribellati. Fa orrore questa roba qui. Fa orrore, ma non è che fa orrore dal punto di vista televisivo. Invece voglio attaccare politico, se ne frega, ma Salvini politica è un altro discorso, dai. Questo ha pregato insieme alla D'Urso per i morti, come si chiama la preghiera dei morti? Aspetta che ce l'ho scritta, l'eterno riposo, vabbè, e che sarà mai, hanno fatto di tutto in televisione, adesso rompono i coglioni per una preghiera della D'Urso sui morti. Hanno pregato ai morti, va bene, d'accordo, politicamente mi fa orrore, ma chi se ne frega, mi fanno incazzare. Dillo senza paura, non lo dici, dillo senza paura. L'ho detto. Non l'hai detto, di politicamente mi fa orrore Salvini, dillo. Non ti devi preoccupare, dillo. Sei incredibile. È una trasmissione che non chiuderanno perché va forte negli ascolti, lo puoi dire, distinguiti, l'eterno è il momento riposo, per farlo. Di che ti fa schifo, mi fa orrore la politica. Preghiera. Lo puoi dire. No, ma in generale. Dillo, non lo dici, ma non lo dici, liberati. Mi tolgo 10-20 secondi alle mie parole, che possono anche essere un di più, per pensare veramente, alcuni li conosco personalmente, a coloro che non hanno neanche voluto salutare la mamma, il papà, il nonno o la nonna. E quindi mi taccio e dedico un eterno riposo a queste italiane, a questi italiani che ci danno una mano dalla sua a uscire da questo incubo. Se vuoi io lo dico, lo posso recitare, perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Come non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. Tutte le sere rosario. Quindi l'eterno riposo, dona. Siamo in due, Barbara. Splenda per essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Allora, Matteo. Posso dirti? Secondo te lui tutte le sere lo recita? Ma secondo che cazzo? Lui tutte no, le sere no, lo recita. Sicuramente no. Ma secondo te? No. Secondo te? Dillo, poi esprimiti. Esprimiti, dillo come lo puoi dire. È una bella figura retorica, però, questa. Ma lo sto dicendo. Non lo fa, non lo recita. Dillo, senza paura, devi dirlo. È un espediente retorico grandioso questo, da usare. Comunque, ragazzi, io non credo né che la D'Urso ogni sera reciti il rosario, né che Salvini reciti il rosario ogni sera, ha fatto la preghiera. Non pensavo che la cosa fosse partita da Salvini, sicuramente saranno stati d'accordo, come dire, no? Cioè ci sarà stato un accordo precedente. Beh, penso proprio di sì. Comunque fra poco veniamo anche al signor Cairo, molto criticato. Io ti dico subito che lo difenderò. Cioè, non abbiamo parlato prima, tu non ti puoi esporre perché chiaramente sei in conflitto di interessi. No, ma infatti, però posso dirti che quell'annuncio di 3 minuti e 43 che era rivolto alla forza lavoro di Cairo, che è un signore che ha padrone della 7, padrone del Corriere della Sera e di altri giornali, un grande editore italiano, signor Cairo, era un annuncio alla forza lavoro. Ragazzi, che cioè cazzo deve fare uno? Era una cosa da spogliatoio, privata, era, sì, non ma era una cosa perdere, che poi è uscito e diventato pubblico. Il punto fondamentale è che uno che cosa deve dire alla gente che lavora con lui? State in casa, fatevi ammazzare e morite? Che cazzo deve dire? È chiaro che deve spronarli a lavorare, a fare risultati per l'economia. Ma che cazzo vi aspettate da un video rivolto alla forza lavoro? Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Poi vi farò ascoltare alcuni pezzi, ma è normale, la rete vendita. E un capo parla alla rete di vendita e dice: stiamo avendo successo, quella gente investe qui, la gente investe là, ho chiamato io gli investitori, ho chiamato quello, ho chiamato quell'altro. Di cosa stiamo parlando? Qual è il cinismo in tutto questo? È stato tacciato di cinismo. Io non ho nulla, cioè non è che devo difendere qualche cosa, non mi interessa, no, cioè io guardo le cose per quelle che sono. È un messaggio rivolto alla forza vendita del signor Cairo, in cui un capo azienda dice ai suoi ragazzi: lavorate, otterremo grandi risultati, già li stiamo ottenendo. Certo. Che cosa deve fare? Deve dire no, deprimetevi, restate in casa, ammazzatevi, non vendete la pubblicità. Ma di che parliamo? Ma magari ce ne fossero di gente che in questo momento, ce ne fosse di gente in questo momento che sprona i suoi a lavorare, che sprona i propri dipendenti a lavorare. Ma è tanto di cappello, che devo dirti? Adesso mi diranno: Cairo venduto, cioè, no, ma non ho nulla. Solenghi, però, amici miei, Solenghi contro la Germania è bellissimo. Tullio Solenghi, sì, contro la Germania, stupendo. Dicevo, hanno detto di no alcuni paesi del nord dell'Europa, della comunità europea e dell'est, non c'è da stupirsi, ma anche e soprattutto i tedeschi. Allora io vorrei un attimo ricordare come hanno inciso i tedeschi sulla storia degli ultimi 100 anni. I tedeschi hanno provocato la prima guerra mondiale, i tedeschi hanno provocato la seconda guerra mondiale, i tedeschi hanno sterminato 6 milioni di ebrei nelle camere a gas e i tedeschi ancora oggi hanno questa loro arroganza spietata, oggi in termini economici, ma sempre quello che considerarsi una razza superiore, quel criminale con i baffetti, diceva Ariani, ecco, ancora oggi si sentono superiori, non possono cedere il prestito nei confronti dei poveracci, per carità, no? Allora, oltretutto, se poi si considera il fatto che, come pare ormai accertato, il paziente zero di questo maledetto coronavirus è un tedesco, e lì veramente i coglioni girano proprio in maniera vorticosa, io vorrei ricordare ai tedeschi una cosa. Appena finita la Seconda Guerra Mondiale, la comunità internazionale, se avesse ragionato con questa loro incredibile e ciclica arroganza e non invece con la pietas umana con la quale ragionò e avesse richiesto gli effettivi danni di guerra ai tedeschi, oggi i tedeschi vivrebbero tutti nelle bidonville. Riflettiamo su questa cosa. Quindi grazie a Dio sono italiano, sì, saremo cialtroni, saremo anche mafiosi come dicono i tedeschi, ma siamo empatici, siamo umani, quindi grazie di essere italiani e non tedeschi. Ma vabbè, invece di cazzare, vi combattere in prima linea come combattiamo noi camionisti da 40 giorni in zone rosse e non c'è un cazzo per mangiare qua perché stanno tutti chiusi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? chiamate all'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Paco, sindacalista del cazzo, mangi il panino in macchina. Ricordati che nel tuo paese non c'era né il panino e né la macchina. Hai capito? Ma non farmi ridere, va, vergognati. Mentre qui a Catania 9 persone sono state multate perché nell'autocertificazione hanno scritto sono uscito per comprare la droga, indicando anche la piazza di spaccio in cui si stavano recando. Comunque ragazzi, la cosa incredibile di questi giorni, degli ultimi giorni, è quello che è successo a Pozzuoli, Pozzuoli vicino Napoli. A Bergamo sfilano le bare, la voglio dire molto forte, a Bergamo sfilano le bare e a Pozzuoli, ovviamente non tutti gli abitanti di Pozzuoli saranno così, per carità, certamente, no, certo. Non c'è dubbio, sono sicuro che rispettano la maggior parte, rispettano la legge, quello che è stato imposto, questa, no, questa reclusione, questi arresti domiciliari, come dice Porro, che ci sono stati imposti. Ballano per strada, un gruppo di persone in un quartiere di Pozzuoli balla per strada. Incredibile. Balla per strada mentre ci sono i morti a Bergamo. Si vergognino. Ma non Pozzuoli si vergogna, adesso la prenderanno male come al solito. Non si deve vergognare Pozzuoli, si devono vergognare i singoli individui, perché la responsabilità non è di Pozzuoli in quanto Pozzuoli. Io so, perché l'ho sentito prima per telefono, ma magari dopo lo chiamiamo, il sindaco di Pozzuoli si vergogna per queste persone qua, si vergogna. Beh, certo. Profondamente per i suoi concittadini delinquenti che vanno per strada a ballare e cantare. Ma che cazzo ballate? Io posso capire, perché naturalmente la reclusione per me è diversa dalla reclusione. Io posso uscire dal lunedì al venerdì, venire qui alla radio, stare qualche ora in sicurezza, si spera, e poi tornare a casa. E dunque per me è una reclusione diversa rispetto agli altri, perché chi va a lavorare comunque, se è in sicurezza, non è preoccupato. Un po' di preoccupazione ce l'abbiamo tutti, naturalmente, anche quando veniamo qua. Non è come chi deve stare per forza rinchiuso dentro casa, su questo non c'è dubbio, e trova tutti gli artifici possibili per eliminare questa reclusione: andare a fare la spesa 40 volte, portare giù il cane, fumarsi una sigaretta sul balcone o forse sotto il portone, qualsiasi cosa. Però mettersi a ballare in gruppo come hanno fatto questi imbecilli a Pozzuoli, no. Mamma mia, incredibile. Ma è uno sfregio, non soltanto ai morti di Bergamo, a quelle bare, a quelle famiglie. No, perché poi, è uno sfregio. Perché poi il paragone che si fa è subito: persone. A Bergamo sfilano le bare, a Pozzuoli ballano per strada. Ma anche, sì, anche ma... loro sono degli irresponsabili per loro, per esatto, loro stessi. Esatto, cioè, esatto. Roba, incredibile. Quindi, incredibile. Oltre allo sfregio Briatore, fatto a Briatore, chi lotta. Briatore che dice addirittura che Agilente. Conte potrebbe avere commesso dei reati. Come Taormina, praticamente, come Taormina. Però dai. Diciamo è il nostro Briatore. Diciamo solo è Briatore. Ho sentito prima che si parlava di sfortuna. Non c'è sfortuna qua. Il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno commesso 3 reati, a mio avviso. Prima hanno taciuto, poi hanno diffuso e adesso non mettono a disposizione i mezzi per combattere. Ha ragione Briatore, non esiste nessun modello italiano, non esiste alcun modello italiano, andate a leggere, non vi dico nemmeno le testate dove leggere, gli studi che hanno fatto, non ci abbiamo capito un cazzo dall'inizio su tutti i fronti, per cui non esiste, né io l'ho riassunta così, abbiamo commesso errori madornali e tragici, dunque il modello italiano che tu hai esaltato tra l'altro non esiste, peraltro potrebbe esistere addirittura quello... un modello veneto. Incredibilmente, non esiste un modello italiano, però potrebbe esistere un modello veneto. Ma andiamo avanti con Briatore. Questo è quello che dice lo studio di Harvard. Harvard, sì. Come tu dici, come tu sai. Ci sono metà dei comuni che sono commissariati a sud dell'Italia. Ma quando la riceve la gente che ha bisogno di mangiare domani, Giletti, c'è gente, gli autonomi, chi lavorava in nero, sono sempre esseri umani, non hanno più soldi perché non fanno più niente da mesi. I soldi si mandano domani mattina col telefonino una scheda che tu riesci a scaricare ai supermercati, non mandarli al sindaco. Sai quando arrivano questi soldi? Un mese e mezzo. Poi sta dal sindaco a vedere chi l'ha votato, ce l'avrà prima, chi non l'ha votato ce l'ha dopo. È uno scandalo. Adesso spero che i sindaci non facciano così, però ha ragione Briatore. Ma che roba è questa cosa di dare i soldi ai sindaci? Ma che roba è dare i soldi ai sindaci? Perché i sindaci, il governo l'ha deciso, perché i sindaci dell'ANCI sono stati i primi a dire noi siamo in prima linea. Ma sono contrari, tutti sono contrari, non sanno come gestire sta roba. Ma quali contrari? L'accordo l'ha fatto l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'ANCI l'ha fatto l'accordo col governo. Soldi nei conti correnti, non ai sindaci. Perché sono i primi, il primo terminale verso i cittadini, i sindaci, con i loro assessori alle politiche sociali, certo. Senti l'altro, il disfattista. Contro Vauro. Sentilo. Ma uno sicuramente dei problemi che affligge il nostro sistema sanitario è la carenza di finanziamento al sistema. E da cosa viene questo problema? Viene anche da chi non paga le tasse, viene da chi compie il reato, quello sì, signor Briatore, un reato di evasione fiscale. Eccola stoccata, Briatore, eccola. La Cassazione ha detto al Tribunale di Genova di rifare il processo, di rifare il mio processo. Ripeto, signor Briatore, io non la ho citata. Questa si chiama excusatio non petita a casa mia. Io ho citato l'evasione fiscale. Se lei si sente chiamato in causa, non ci posso fare nulla. Io non ho fatto il suo nome. Un attimo, allora. Però che allora usciamo. Io faccio il suo nome. Questa scuola di paglia, vogliamo dire in latino, e scusatio non petita. Non testa di cazzo. Usciamo. Di paglia non ce n'ho neanche una. Usciamo dalle questioni personali. Vorrei capire come. No, però. È sempre lui. Lui e la Costa Maglia sono gli unici due. Dovrebbero sposarsi. Che cai, il signor Briatore. Beh, un grandissimo. Diego da Roma, avanti tutta. Ragazzi, intanto c'è da sottolinare che il signor Orban, ha ottenuto pieni poteri. Ti aspettavo al varco. Dirti una cosa, io non sopporto, a me piace la democrazia, dunque a me piace, anche se con una cosa che deve funzionare, non piace la burocrazia, non mi piacciono le cose troppo, le due camere in Italia, eccetera. Però mi piace il Parlamento che dibatte, cioè, dunque questa cosa di Orban è negativa. Però devo dire una cosa, almeno in una situazione di crisi c'è uno che comanda, in Italia non si capisce un almeno, cazzo come al eccolo, c'è uno che comanda. Per carità, è antidemocratico, c'è no? Il governo, c'è il Parlamento, c'è il capo dello Stato. Molta gente in Italia, io sono sicuro, tra chi ci ascolta, diranno: Orban ha fatto bene ad assumere pieni poteri in Ungheria sul coronavirus. Ma male. Diego, male. Sì, a parte che, come al solito, Davide ce le minchiate, perché Conte sta facendo, ha assunto di fatto i pieni poteri, perché fa decreti lui. Vero, alla cazzo di cane, di i decreti. Quindi, si sono sempre fatti, come lei sa, i decreti legge vanno poi convertiti in legge, come lei mi insegna. Questi quindi non c'entra niente. Non sono decreti legislativi del governo, si sono, sempre fatti in situazioni. No, e tra l'altro Davide è il solito, no? Perché quando si tratta delle cose che a lui piacciono li enfatizza. Salvini ha fatto benissimo a dire un eterno riposo, una preghiera per tutti questi poveri morti, insieme alla D'Urso, in una trasmissione nazionale popolare, vista proprio dai parenti di quelle persone. Questo pure bisogna considerare. Diego la Volpe. E l'ha detta in Diego la Volpe, è una volpe questa. Questa tutti, è proprio una classica volpe. Dici chi è? Una volpe. Diego ha detto la volpe. Qualcosa della Torah, della cosa. Sarebbe stato un vivo. Ma non si ma può figurati, ebrei, ma figurati. Ma io non mi metto a fare preghiere in televisione. Ma non sono un politico, perché è un politico che fa preghiere in televisione, non è il Papa, Diego La Volpe, non è il Papa, Diego La Volpe, ma guarda te, il lunedì, la prima telefonata del lunedì deve essere questo povero coglione, Diego La Volpe, pensa a te, che ha battezzato l'apertura della trasmissione, guardalo qua, Diego La Volpe, non puoi parlare di niente, perché non sei un cazzo. cosa c'entra niente. Quello? Però Diego, cosa c'entra la... neanche della crisi non puoi parlare, tanto te i soldini Diego la Volpe. Allora Diego la Volpe. Diego, questa è una classica Volpe, una Diego, classica Volpe. Zitto un attimo, Diego sta dicendo. Diego sta dicendo che in fin dei conti sta dicendo che la preghiera di Salvini è un ascoltatore. La preghiera di Salvini è una cosa popolare perché si rivolge ad un pubblico che magari ha avuto qualche parente morto. Ho detto che è una follia che un politico strumentalizzi la religione in questo modo. E questo Diego è un povero imbecille. Se lo fa Zingaretti va bene, se lo fa un babbeo di sinistra. Ma Zingaretti non si mette a pregare col rosario in mano. Sembra un monsignore ogni volta che interviene, sembra che faccia un sermone. Ma c'entra monsignore? Fermi là, fermi tutti nei comizi a usare la croce. Fermi tutti, vabbè, fai i cocktail uguale. Ecco l'altro che lo difende. La cosa laica, c'ha un altro tipo di religione, quella laica, diciamo, no? La Zanzara. Sei uno che lavora in nero? Sei uno che non ha mai lavorato? Sei uno che non ha mai pagato le tasse? Bene, lo Stato ti aiuterà e ti darà i soldi per fare la spesa e per mangiare. Paghi l'INPS, paghi le Nasarco, paghi i dipendenti, sei una partita IVA, sei un agente di commercio, hai un'azienda, hai dipendenti. Bene, a te non si sa se e quando, forse e quanto ti arriverà. Cazzo ragazzi, viva l'Italia! Oh, ma allora noi lavoratori, partite IVA eccetera, pugni in bocca, calci in culo, ma e i deputati e i senatori e tutti quelli che lavorano nelle aziende pubbliche che prendono fior fior di quattrini di stipendi o di emolumenti, come li chiamano loro? Sarà bene che comincino anche loro ad abbassarsi lo stipendio in questo periodo, perché veramente viene fuori la rivoluzione sociale. Ma perché questi messaggi di gente che dice che non ha più liquidità arrivano tutti dal sud? Mi pare che in tutta Italia ci sia gente che abbia perso il lavoro, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna. E invece guarda caso arrivano tutti questi messaggi di gente che dice che ha perso il lavoro, che non ha più soldi, che non ha più da mangiare, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. E come mai? E come mai? Vabbè. Di farti promotore della nostra voce, la voce degli agenti di commercio, tu che sei figlio di un agente di commercio, visto che noi che muoviamo il 70% del PIL ci ritroviamo a non avere nulla, nemmeno i nostri 600 euro, una miseria e nemmeno ci spetta. Ragazzi, intanto c'è uno scrittore amico tuo, caro David, che si chiama Veronesi, come sai? Veronesi, Sandro, sì, Veronesi, Sandro Veronesi, il quale dice che la vera malattia è il genere umano. Così ha detto. Cioè, l'uomo, il genere umano è la vera malattia, così dice. È la vera malattia. Io, c'è un pensiero naturalmente più articolato, l'ho riassunto in questo modo. Ah, ecco, appunto, si sente colpevole in quanto appartenente al genere umano. Beh, è l'uomo che ha alterato tutto, la natura, una roba eccetera. Incredibile. Da un punto di vista di uno scrittore è così. Lo scrittore ci deve far pensare. Non dire cazzate. Certo, lo scrittore ha questo compito qua di farci pensare, di farci riflettere sulle cose, di vedere le cose in 3D. Sei incredibile. No, tu sei incredibile che pur di sollevare il cosiddetto popolo contro. A proposito di popolo, a proposito di popolo, c'è un signore da Palermo. E non hai ancora detto. Non hai ancora pronunciato parole sullo spettacolo di quel politico che in televisione prega. non hai avuto ancora il coraggio di dire nulla su Salvini. Ma l'ho detto che non me ne frega un cazzo della preghiera di Salvini. Un silenzio assordante, è un silenzio che urla il tuo, è un silenzio che urla. Sei un coglione. È un silenzio che urla nel difendere per forza l'uomo dei sovranisti italiani. Ma che difendere? Sto dicendo semplicemente che ti dà così fastidio una preghiera. È un silenzio che urla. Ti dà così fastidio una preghiera. Quel silenzio urla. No, mi dà fastidio il fatto che un politico strumentalizzi. Ma che te ne frega a te? La religione e i morti. Una roba incredibile. E il tuo silenzio. Dunque, secondo te non è sincero? Il tuo silenzio è rumoroso. Fa più rumore il tuo silenzio di una tua parola. Sei pazzesco, sei pazzesco. Uno non può nemmeno pregare per i morti, che tu devi interpretare questa preghiera per i morti come un'offesa per i morti stessi. Ma dai, fallo risentire. Ma che dai, ha detto, che, ha detto che lui tutte le sere prega. Tutte le sere prega, dai. Scusi, tutte le sere lei che prega, pensa detto, delle preghiere? Di solito a lei non piacciono molto le preghiere, mi sembra, no? Naturalmente io sono cresciuto in Francia, naturalmente con il grande Guy Debord, studioso marxista, naturalmente. E quindi io reputo la religione naturalmente una catastrofe assoluta, naturalmente una catastrofe, naturalmente straordinario quell'evento con quell'uomo bianco, il Papa, l'altro giorno, sì, che del sì. silenzio di una piazza meravigliosa, silenziosa, dove non c'era nessuno, con il suo incedere lento e claudicante, naturalmente sotto una pioggia battente ha baciato il crocifisso, grande spettacolo, naturalmente, quello è stato un grande spettacolo televisivo, naturalmente. Abbiamo fatto il 64%. Il 60% abbiamo fatto, l'ho fatto io la regia, naturalmente. Il 64% di ascolto col Papa, quello è bellissimo. Con quell'atmosfera tetra, il buio, la pioggia e quest'uomo vestito di bianco, naturalmente, della piazza deserta di San Pietro. Ho capito, ma che c'entra? Una pura poesia, per forza, naturalmente. Deserta, abbiamo fatto il 64%. Ma è tutto share, tutto spettacolo, dai, lo spettacolo. Allora, intanto Salvini, grazie per c'ero, Salvini. Si congratula con Orban per i pieni poteri. Poteri speciali a Orban per cosa? Aspetta. Vedi? Poteri Vedi? Speciali a Orban, mi fai leggere o no? Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus. Saluto con rispetto la libera scelta del Parlamento ungherese. 137 non voti a favore, stata. Aspetta. Sì, evidentemente sì, 137 voti a favore e 53 contro. Eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all'amico Viktor Orban e buona fortuna a tutto il popolo d'Ungheria. Dunque, Salvini dalla parte di Orban, che a sua volta dice: le opposizioni stanno dalla parte del virus. Allora, abbiamo in collegamento un linguaggio. Abbiamo in collegamento un signore. Si può dire una porcheria simile? Scherzi a parte, si può dire una porcheria Orban, simile? Orban, dai. Cioè, può un capo di Stato dire una roba simile? Lo cacciassero dall'Europa, che me ne frega a me dell'Ungheria. Lo cacciassero dall'Europa. Se l'Europa non lo vuole dentro, lo cacciassero. Se pensa che sia un dittatore, lo cacciassero dall'Europa. Beh, infatti, dai. C'è una, come tu sai, c'è una procedura aperta nei confronti bene, del governo. Va bene, vedremo. Come allora, tu sai, e come è stato scritto in un libro che si chiama Vorrei far parlare un signore che abbiamo qui in collegamento, l'abbiamo chiamato noi, che si chiama Michele. Michele che chiama da Bari, che saluto, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora Michele non lo conosce nessuno, ma in realtà è il signore che nei giorni scorsi, di fronte alla scena su una strada di Bari con delle persone che hanno dato in escandescenze perché non riuscivano a prendere dei soldi, una persona era titolare di una tabaccheria, se non sbaglio, che naturalmente è chiusa, un'altra persona, credo che sia un figlio, la stessa persona ha un figlio disabile e non era arrivata la pensione, ha tirato fuori 50 euro per entrambe le persone, non so bene a chi li ha date, Michele, questi soldi, e se n'è andato così senza dire niente. Qualcuno mi ha segnalato il suo numero, eccolo qui, lui è la persona che fisicamente ha dato 50 euro in mano, credo a due persone. Vedi, da quello che ho visto dal video. Questa è la giusto? Bella Italia. Giusto, bella Michele? Italia. Sì, esatto, esatto. In realtà io abito lì vicino, quindi passavo, ho visto la disperazione della signora e ho fatto una cosa che avrebbe fatto chiunque, insomma. Beh, insomma, innanzitutto bisogna avere 100 euro in tasca. Luciani, Luciani probabilmente quella no. È la mia fortuna, quella è la mia fortuna, avevo dei soldi in tasca e li ho potuti dare. Ecco, ma lei ha dato 50 euro alla signora che si lamentava per che cosa? Con i carabinieri, con la polizia, davanti alla banca perché ancora la pensione del figlio non era arrivata? Sì, però la polizia l'aveva chiamata la signora, non la banca. Voleva semplicemente prelevare dal suo conto, perché dal conto della madre, perché mi sa che attendeva l'accredito della pensione. Sì. Queste sono scene che ormai vedremo ogni giorno. tu hai dato soldi alla signora un po' per che cosa ti ha risposto innanzitutto la signora quando no voleva sapere come mi chiamassi, non ne sono andato, sì sì, ho visto dal filmato che infatti insomma hai precisato che non volevi, cioè non ti interessa diciamo la pubblicità su questa cosa qua, però assolutamente. Senti, invece l'altro, perdonami, sì. Sì, dimmi, l'altra persona a cui dai i soldi, chi era, il ragazzo che era lì? Sì, era il ragazzo che stava con la signora, non sapevo fossero insieme in realtà, io non li conoscevo assolutamente. Lui che ti ha detto, il ragazzo? Non ha detto niente, ha preso i soldi e è andato via. Ha preso i soldi e è andato via. Ma al di là di questo mi interessava solo dirlo, perché penso che sia il momento che ognuno di noi, se può fare qualcosa, deve farlo, insomma. Anche che non viviamo tutti, magari chi ha la sensibilità di farlo, perché dire quotidianamente queste cose deve farlo, in attesa che il governo faccia qualcosa, sì. Ma senza fare polemiche, per carità. No, ho capito perfettamente. Tu ti sei trovato lì, hai visto questa scena quasi per placare, diciamo, la furia di quelle due persone. Uno, ho visto dal filmato, che tirava dei calci contro la serranda, contro anche la vetrata della banca, se non sbaglio. Sì, esattamente. Con la polizia ferma, tu a un certo punto, immagino per placare la furia di queste persone, oppure semplicemente perché hai visto il bisogno? No, in realtà ho visto la disperazione della signora, è quello che mi ha toccato in realtà. Hai dato 50 euro a lei e 50 euro alla cosa. Tu che cosa fai di mestiere, Michele? Sono un piccolo imprenditore, abbiamo 50 persone, 30 in cassa integrazione, quindi è dura anche per noi. Sì. Quindi magari è più semplice comprendere le difficoltà oggi delle persone che vivono dello stipendio, che magari non lo ha, anche perché c'è tanta gente che magari non ha neanche la forza di urlare ed è invisibile prima e lo è di più oggi, insomma. Questo è il vero problema. Certo, 100 euro non risolveranno i problemi di quelle due persone, no, però in ogni caso sicuramente per qualche giorno possono fare la spesa magari e possono sicuramente aspettare con più tranquillità che arrivi qualche soldo dal comune, dal governo, da quello che è. Come ti sei sentito? Perché sei andato subito via innanzitutto? Ma non volevo, ero in imbarazzo, innanzitutto ero in imbarazzo avendo la possibilità io di avere forse dei soldi in tasca e gli altri no. Ed era un imbarazzo perché non volevo che qualcuno mi ringraziasse in realtà. Poi non volevi nemmeno fare, diciamo, la parte dell'eroe, di quello che. Ma no, ma quali eroe? L'eroe sono le forze dell'ordine, i medici e gli infermieri che stanno in prima linea, non noi. Non lo so, è solo che ci ricordiamo adesso. Lo so tutto l'anno, tutti gli anni, ma ci ricordiamo solo adesso che ne abbiamo bisogno, che vediamo quello che fanno in realtà. Ma in realtà Michele è uno di quelli che penso che abbia, diciamo, che possa resistere qualche mese, no? Senza, spero per te di sì, perché avrai messo sicuramente da parte qualche cosa e poi sicuramente. Assolutamente no. Assolutamente no. Perché in 15 anni è la prima volta che i fornitori ci stanno aiutando perché non li stiamo pagando. È molto altrimenti pure te saresti. Tutta saresti la catena. Altrimenti assolutamente sì, assolutamente. No, magari sì. Dai soldi in banca con cui puoi sopravvivere qualche mese. Ma sì, qualche mese sì, come i miei dipendenti. Fra 3-4 mesi che non c'erano più liquidità, non avremo più come pagare gli stipendi. Per cui non è stato nemmeno una. No, per questo era per dire che non è stata nemmeno una cosa facile tirare fuori quei 100 euro per te. Cioè, sono 100 euro che possono pesare. No? Moglie, cose. Sì, ho due figli, una moglie, il cane, anzi quattro cani. Magari tua moglie si è pure incazzata perché i soldi che hai dato, i soldi, i 100 euro hai cacciato fuori, o no? No, spero di no, non me l'ha detto, forse l'ha pensato. Ciao Michele, grazie, grande, grazie mille, grandissimo. Buona ciao, serata. Ciao. Stefano da Roma, Stefano. Giuseppe, si chiama rubrica Bella Italia. Ciao, ciao. No, non c'è nessuna rubrica, Michele, mi hanno dato il numero, ho chiamato Michele. Adesso invece c'è Italia Urla. Sono due rubriche, una rubrica Bella Italia, che non viene quasi mai fatta, e poi c'è l'Italia Urla. Ma non è automatico, bisogna vedere, bisogna sentire quello che arriva, Stefano, dimmi. Allora Giuseppe, io sono un medico, dico solamente questo, e mi ricollego anche a quello che ha detto prima l'altro ascoltatore, gli eroi sono i poliziotti, i medici, gli infermieri. Io volevo dire solamente questa cosa. Io sono un medico che ha lavorato fino a lunedì scorso a un centro Covid a Roma e poi ho lasciato il posto ai rianimatori perché io sono chirurgo, non sono rianimatore, però continuo, oggi stesso continuo a controllare i pazienti operati qualche tempo fa perché naturalmente vanno seguiti nel posto operatorio. Sì, ma voi siete protetti dal punto di vista delle dotazioni, mascherine, cose, protezioni? Mi porto tutto io, mascherine, dotazioni. Cioè non me l'hanno date? L'hanno date solamente ai rianimatori che giustamente stanno in terapia intensiva. Con quanto ritardo l'hanno date? Ce l'hanno date subito queste cose? No, con ritardo. Con ritardo. Fermo là, poi aspetta là, fermo là, fermo là. La Zanzara. Allora, hanno fatto un nuovo decreto, hanno inasprito le sanzioni per quei figli di merda che escono senza permesso. E cosa succede? 4.942 persone sono risultate non in regola. E allora che cazzo bisogna fare? Inasprire ancora di più le sanzioni? No, legnate sui denti. E ha ragione De Luca, allora. Lanciafiamme a queste teste di cazzo, bastardi, infami, schifosi. Pezzi di merda, state a casa o legnate sui denti. Ecco quale dovrebbe essere il nuovo decreto. Tre lati positivi del Covid. 1. Aria pulita a Milano, che prima era diventato un cesso. 2. Parenzo che litiga con Gottardo, che viene definitivamente espulso dalla maggioranza silenziosa e gli viene attribuito l'aggettivo grassone di merda. 3. L'annientamento totale e la sparizione di Sarcazzo San Minchia Santuzzo. Sparito. Sardine sparite. Caruso da Palermo, la rivolta popolare. La rivolta popolare. Chi è che c'ha questi bambini? Vedete questi bambini qua? Mia figlia sta mangiando questo pezzo di pane con la Nutella. Se come mia figlia altri bambini fra qualche giorno non riescono a mangiare sto pezzo di pane, sia tranquillo che lei non se ne sta a casa senza rimorso, perché facciamo la rivoluzione. I picciolo faniero, signor Conte, i picciolo faniero, sindaco Orlando di Palermo, venisse in soccorso a fare pure lei, ci si lascia ricchi, non si sia bello seduto che lei sta bene, perché come me io ci sto mettendo la faccia, perché ancora io ho un pochettino di fegato, non mi interessa arrivare a questo punto, manco mi interessa se mi riescono, perché se parlo male di voi politici, perché per me arrivare a quattro cose proprio, ma manco mi... dai, manco ne parlo. Vogliamo sapere in ciò stasera quando arrivano gli aiuti, perché forse non è chiaro il discorso. Che entro domani o dopodomani scoppia la rivoluzione, andiamo a rompere tutti i supermercati per dare a mangiare a questi piccirini. Forse non è chiaro. Forse a voi il concetto non è ancora chiaro. Quando arrivano? Volevo sapere quando arrivano. Fine marzo ci sono i soldi della cassa integrazione. Fine marzo possiamo continuare a dare a mangiare a questi piccirini. Noi possiamo pure non mangiare, qualche giorno in arancia ne mangiamo l'erba che troviamo in teatro. Fissari, ma i bambini devono mangiare. Non state con la coscienza pulita, perché facciamo scoppiare la rivoluzione. Palermo, quanto siamo un milione, la rivoluzione succede solo per Palermo. Non parlo di me stesso, che io sono un papà disperato, un papà... Io mi arrangerò, non è un problema, ma io sto parlando al nome del popolo siciliano e italiano. Mi contattano da tutta l'Italia e tutta la Sicilia. Ragazzi, siamo alla frutta, allora, non siamo alla frutta, già, cioè, forse gente che mi telefona che da tre giorni che non mangia. Fino a poco fa mi ha telefonato un ragazzo che ha i suoi figli digiuni. Dice: Salmo, non mi interessa, mi dispiace per l'Italia, ma io sto scendendo e vado a fare casino e mi faccio arrestare. Signor Conte, ma che cosa cerca lei, signor Conte, lei che cosa cerca? Signor Lando, dov'è? Io non la sento, signor Lando. Dov'è? Non la sento, signor Lando. Ho visto solo un posto dove che dice di velocizzare i tempi e aiutare i cittadini, va bene, ma sono chiacchiere. I fatti non ne so, stanno morendo la fame, chi se ne dà, signor. Stefano da Roma, allora Stefano, che ci stavi dicendo? Dicendo che fino a martedì scorso, che poi il centro è stato rilevato dalla regione, fino a martedì scorso i dispositivi me li compravo io di persona, mascherino, occhiali antischizzo, cappelletti, eccetera, eccetera. Poi da quando è stato rilevato dalla regione, naturalmente sono arrivate le tute, ma solo per i diagnosi. Ma io continuo comunque a avere rapporti con le persone operate prima, no? Che comunque sono state lì, non si sa, poi non vogliono fare tamponi a nessuno, ci sono un paio con i sintomi che io ho chiesto espressamente all'ASL, io presentandomi, qualificando quale medico. No, i sintomi sono altri, non lo fai tampone. Cioè, vabbè, ma che cosa volevi dire, Stefano? Scusa. Volevo dire, ecco, no, una cosa che c'è. Vabbè, io non sono un eroe, non voglio essere trattato d'eroe, mi compro. Ma almeno quando esco a quest'ora trovo pure i supermercati chiusi. Non lo so, adesso i supermercati a Roma non penso che ci siano tutti i supermercati chiusi, però sicuramente. Chiusi tra le 18 e le 18:30, tutti. Io adesso sono uscito adesso dal lavoro. Sì, la sera, certo, sono chiusi, certo. Sì, ma io lo so, ma secondo me è una cosa. Cioè, noi siamo eroi solo quando la gente canta dai balconi e così, ma mette un pezzo di pane su. Nel piatto non lo possiamo fare perché alle 18 chiudono i supermercati. Ma la mattina non riesci ad andare a fare un salto ai supermercati la mattina presto? Non sempre, perché certe volte trovo delle file di un'ora, un'ora e mezza, certo, di file. Certo. Ciao Stefano, ciao, abbraccio. Ciao Giuseppe. Sergio dai Sernia, vai Sergio. Salve, ma poi c'è l'altra notizia che hai sottaciuto. Io sono d'accordo con Matteo Renzi quando dice che bisogna aprire tutto, altrimenti non circola l'economia. Il virus tanto prima o poi si fermerà. Adoro la zanzara, quel fastidioso insetto. Questo è quel coglione di questo, è quel cretino di. È quel cretino di Caruso! Questo è quel cretino di Caruso, infame, maledetto! Infame tu sia! Sei il solito infame! Ma non hai un cazzo da fare! Non hai un cazzo da fare! Ma quale crociate? Ma la tua non è una crociata, sei un rincoglionito e basta! Nel comasco, perché io sto godendo l'ennesima potenza nel vedere dannarsi. Sei un cretino. No, ma quello è veramente una vergogna. Caruso, no, basta. C'è gente che muore. C'è gente che muore. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare. Giù, Caruso. Ti devi vergognare di quello che dici. C'è gente che muore tra Brescia e Bergamo. E tu ti devi vergognare di quello che dici. Per il fatto che dici di godere per la morte delle persone. Ti dovresti vergognare. Ti devi vergognare. La gran maestressa di Barbanella D'Urso si finga Santarella recitando il rosario prima di andare a letto. Io ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma stai zitto, cretino. Stai zitto, imbecille. Sei un poveraccio, un miserabile. Miserrimi idioti, Somari, vaffanculo da Michele Caruso. Ma vai a cagare, Caruso. Loris da Vicenza, Loris, imbecille. Suo marchio di fabbrica, capito? Michele Caruso, troglodita. Ma vai, Loris, dimmi, Loris. Pronto? Dimmi. Buonasera, Giuseppe. Allora, soluzione per le mascherine che non si trovano. Sì, effettivamente la vergogna è che non si trovano. Io ne ho una che ho preso un po' di tempo fa e negli ultimi tre giorni l'ho dovuta pulire. Cioè, pulire. Non si trovano da nessuna parte. Pazzesco. No. Loris, dimmi. No. Allora, sotto casco della moto, in seta, assorbenti femminili per le mestruazioni. Come assorbenti femminili? Si toglie l'adesivo dall'assorbente. Non è una cazzata, è vero, Sì, ho capito, ma gli assorbenti. Ma no, non credo che abbiano la stessa funzione, amico mio, gli assorbenti per le mestruazioni. Dai, adesso ti spiego, e lasciami spiegare, Giuseppe. Allora, l'assorbente viene fatto aderire al sottocasco di seta. No, ma non sento niente, Andrea, non so, sento pochissimo. Ma meno male. Ma Andrea meno male da Firenze, richiamate Loris, Andrea da Firenze, dai. Andrea, dimmi. Sì? Comunque, hai visto cosa ha fatto il deputato di Fratelli d'Italia? Che ha fatto? Hai visto o no? Dimmi, l'hai data la notizia? No, dimmi, non lo so, magari mi è sfuggita, dimmi che cosa. Fabio Rampelli, che possiamo sì, anche come chiamare. Ha tolto la bandiera europea, sì, ha tolto la bandiera europea. Ammaina la bandiera europea. Vabbè, ma chi se ne frega, ha tolto la bandiera europea. Un rappresentante delle istituzioni. Vabbè, ha tolto dal suo studio in polemica con l'Europa, che non ci aiuta, secondo lui, ha tolto, perché effettivamente è così. Difendi qualunque cosa. Ma io non sto difendendo niente. L'Europa non c'è, l'Europa chi? Il Parlamento europeo, la Commissione. Ha stanziato un sacco di soldi, la BCE è lo stesso. Andrea, ma di Firenze, che parlate? Dai. L'Europa, vai, Andrea, in generale, dimmi. L'Europa. Dimmi. Sì, ciao, buonasera. Sei l'unico che nel mondo a dire Rampelli. Che l'Europa ha deciso chiamiamo di dare Rampelli. Soldi all'Italia. Sei no, l'unico nel mondo. No, l'egoismo degli stati, Germania e Olanda, ma non c'entra l'Europa c'entra? In quanto tale. Andrea da Firenze, anzi, dai, Andrea, dimmi. Se ci fosse più Europa non ci sarebbe questo egoismo. Mamma mia, che parole al vento, Andrea, dimmi. Sì, ciao, buonasera Giuseppe. Vabbè, buonasera, va bene, dai. E buonasera al ministro della verità. Dimmi. Perché abbiamo scoperto ufficialmente che tutto deve essere secondo, come dice il ministro della verità, David Parenzo. Dalla politica alla religione. Sì, sì, perché il dottor Parenzo si permette di dire quello che è giusto e non è giusto. Una volta che prendesse posizione contro un certo schieramento, mai. non ci sono le mascherine, non c'è organizzazione di niente. Ma guardi che ho detto che Zaia sta facendo molto bene. Guardi che io ho detto che Zaia sta facendo molto bene. Lascialo parlare. Io ho detto che Zaia sta facendo bene, Somaro. Lascialo parlare, Andrea, dimmi. Somaro, ma come si permette? Va bene, dai, ho detto che Zaia fa bene, quindi che c'entra lo schieramento politico? Il ministro della verità si permette di criticare naturalmente Salvini, perché non è del suo schieramento, perché dice una preghiera. Fra l'altro l'ha detta la D'Urso, non l'ha detta lui. Beh, no, l'ha detta lui. L'imam può pregare quanto vuole, ma si guarda bene da dire qualcosa con l'imam. Ma come? Ma l'imam è vero. Quando? Ma quando è che l'imam va in televisione a pregare? Dice, l'imam? Quando frega lei? Ma qualche esempio fa, Somaro? No. Che calma esempio fai, Somaro? Calma con le parole. No, infatti mi dispiace per i somari, oggettivamente. Non vorrei che i somari mi querelassero. Il di ministro della verità. Calma, non vorrei che i somari mi querelassero, effettivamente. Calma, chiedo scusa ai somari. Ha ragione. Chiedo scusa ai somari. Calma, lei ha ragione. Calma, chiedo scusa ai somari parole. Per averli paragonati a questo qua. Chiedo scusa ai somari. Calma, chiedo parole. Scusa. L'unica calma, cosa infatti, è fare attaccare. L'unica cosa ma è fare no, chiedo scusa ai somari. Lei. Bravo. Allora, che vuoi dire ancora? Che vuoi dire ancora? No, volevo dire questo, che siccome nessuno si permette, oppure quando criticano o fanno delle osservazioni contro la sua religione rispettabilissima, lui si inalbera o comunque deve difendere, in questo momento critico ci sono migliaia di morti, uno che fa una preghiera cattolica, lui ha il coraggio di andare a vedere solo il lato politico. Io veramente non ho più parole. Andrea non ha più parole. Andrea non ha più parole. Grazie ministro della verità. Evviva. Grazie ministro. Se non ha più parole vuol dire che non ha più un cazzo da dire. Quindi, bravo, ce l'ha lei, ministro della verità. Siamo tutti dalle sue parole. Allora, tant'è che si permette di infamare tutti quelli che telefonano. No, Andrea, questo che c'entra. Dipende. Un po' di dignità e lascia la trasmissione. Allora, Andrea da Firenze sta dicendo un'altra cosa. Andrea da Firenze sta dicendo che non gli è sembrato così scandaloso come invece appare a tutti quelli, a tutti i cantori del politicamente corretto anche dal punto di vista anche tu l'hai ma detto a me fa schifo pregare in diretta in televisione perché non mi piace, perché non me ne frega un cazzo, sono ateo, dunque non me ne può fregare di meno. Però ti posso dire una cosa, io mi metto nei panni di chi in televisione ha avuto magari un parente morto o qualcuno di vicino che è morto e sente una preghiera, sarà magari una preghiera falsa, non lo so, non sei nella testa di Salvini, non sei nella testa della signora D'Urso, certamente non è una cosa che avrei fatto, può darsi pure che sia una cosa teatrale, spettacolare, solo televisiva, esibito il crocifisso in un comizio, io non critico chi ha fede, tutt'altro, ministro, critico l'uso politico della fede, ma lei non aveva più parole, perché parla? Verità. Perché come mai non aveva più parole lei? Lei ha detto che non aveva più parole. Non aveva più parole. Ma lei perché parla? Non aveva più parole. Ma lei è tornata la parola? Grande la favela? Lei è tornata la favela? Lei è tornata la favela? Come spicca, ma lei è tornata alla favela, si vede. Dalla sua frequentazione altolocate e vuol fare il proletario. Complimenti, lei è tornata alla favella, oppure lei è tornata alla fava, dipende. Grande ministro, se l'avesse come me lei sarebbe contento, ma non sa nemmeno che... La fava o la favella? Persona, caro Parenzo, devo chiamare una persona. Comunque, ministro della verità è bella, una bella citazione letteraria, peraltro. Aspetta, stiamo facendo il numero di una persona, vediamo se viene al telefono. Volevo solo dire che la citazione Il ministro della verità è molto bella, perché è 1984 del grande Orwell, quindi è una bella citazione. Allora, Allora, Loris da Vicenza era quello che doveva parlare prima. Che stavi dicendo, Loris? Loris. Io ero un sottocasco di seta da moto. Dimmi. A cui viene fatto aderire un assorbente femminile che copre bene naso e bocca. Sì, ma ho visto diversi meme su questo, diverse cose. Non credo che l'assorbente femminile possa rivaleggiare con la mascherina, naturalmente. Non credo, Poi magari ha ragione lei, caro Loris. Non lo so. Ma io ci ho provato per spirito di servizio. Ma lei perché la mascherina non riesce a procurarsela? Ma no, sì, non si trova nulla qui a Vicenza, scherzi. Ma dappertutto non si trova un cazzo, questa è l'Italia. Questa è l'Italia, un paese del cazzo, però, diciamo la verità. Non il paese come Italia. Il governo dall'inizio di gennaio sapeva che c'era questo casino. Beh certo, un paese del cazzo, un paese dove non si trova una mascherina è un paese del cazzo, ma non l'Italia, il governo. Il governo, le regioni, il governo. Il 22 gennaio, 28 giorni prima del caso di Codogno, che è successo? Il ministro della salute ha scritto che dovrà occuparsi dei... Sì, vabbè, buonanotte. Buonanotte. Allora, Parenzo, fai un attimo di silenzio perché ho la professoressa Ornella Mariani in collegamento. Buonasera, buonasera professoressa. Buonasera e nonna professoressa, in un'epoca in cui i signori ce ne sono sempre meno, gradisco ancora essere chiamata signora o direttamente Ornella Mariani. Ornella Mariani, va benissimo, professoressa, effettivamente è inutile. Allora, io vorrei capire una cosa, l'immagine del Presidente del Consiglio insieme al Papa oggi, che cosa le evoca? Che cosa le evoca? Vomito. Addirittura? Vomito. Addirittura? Sì. Perché? È il trionfo della peggiore ipocrisia. Addirittura? Punto. Ma sia da parte del Papa che da parte del Presidente del Consiglio? Ma certamente. Ecco, perché lei parla di ipocrisia con riferimento per esempio a Conte? Cioè lei addirittura nei giorni scorsi ha usato delle parole durissime dicendo che Conte dovrebbe essere incriminato. Ma certamente, perché è un attentato alla salute pubblica. In violazione di ogni principio costituzionale, ma soprattutto in violazione del buon senso, della deontologia, della morale, del ritegno, della responsabilità. Ma di che parliamo? Ma Conte deve fare l'avvocato a Vulturara Irpina, Vulturara Appula, se non vado errata. Sì, ma la cosa che voglio capire, scusi, è l'incriminazione per aver fatto delle omissioni, per non essere intervenuto in tempo. Ma guardi, qui il discorso è duplice. O abbiamo un governo omissivo o abbiamo un governo connivente. Lei scelga. Io dico che sono in campo tutte e due le ipotesi, perché Conte sapeva benissimo che sarebbe arrivata l'onda lunga di una epidemia che diventerà endemica. E non solo non ha fatto niente, ma ha fatto i soliti pettegolezzi di bottega e fino ad oltre la metà di febbraio, lei lo ricorderà molto meglio di me, ridicolizzava l'opposizione, abbraccia i cinesi, abbraccia il vicino di casa, abbraccia chi ti pare, non so chi abbia abbracciato lui o se lo so preferisco non dirlo, e tuttavia... irrideva la Meloni e io ricordo questa dichiarazione: il rischio che il contagio arrivi in Italia è molto remoto. Sì, questo fu l'aggettivo che usò, per poi arrivare a misure draconiane. E io mi domando e domanderei a questo personaggio, perché non lo ritengo altro che un personaggio, chi ci restituirà il tempo che viene sottratto a lei, a me e a persone come lei e come me. Ah, scusi, Ornella, volevo chiederle una cosa. Molti criticano Salvini per questa preghiera che ha fatto ai defunti in televisione insieme alla signora Russo. L'ho trovata di cattivo gusto anch'io, francamente. Lei che è comunque credente, immagino. Io sono assolutamente credente, ma ritengo che la fede non vada, come dire, enfatizzata e spettacolarizzata. È un fatto che deve restare comunque privato e contenuto. Pare che continuino ancora ad arrivare degli immigrati, la politica dei porti aperti, no? Ah, certamente, la signorina Lamorgese denuncia un sindaco che tempera dei decreti, che poi questi facciano un decreto un giorno sì e l'altro pure dicendo tutto il suo contrario, questo è un altro discorso. Ma la signorina Lamorgese ha dimenticato di quando Gori, per esempio, ha pulito una targa con la bandiera, lì l'oltraggio non c'era, lei si è sentita oltraggiata, peraltro da un linguaggio che è consono e che è stato varato e esplicizzato dal governo, perché la gente che siamo lì è la gente che si è fatta strada con i vaffanculo. Quindi di che si scandalizza questo ministro dell'interno? Di no, aspetta un attimo, voglio dire una cosa ancora a Ornella Mariani, che è questa. Ma l'Europa, a lei fa veramente schifo questa Europa, questo è l'argomento. Ma guardi, a questa Europa credo che ci credano ancora solamente Zingaretti, Gentiloni Zingaretti che è guarito dal coronavirus, peraltro. Semmai lo ha avuto, perché no, io ho qualche dubbio. Non lo so. Questo io non so, si può dire, però. No. Dai. Non lo so, io non ho detto che non l'ha avuto. Che vuol dire non lo so? Ho qualche dubbio. Ma che vuol dire non lo so? Ma che vuol dire non lo so? Che vuol dire non lo so? Questo però. No, non dico niente. Ma che vuol dire non lo so? Posso dire solo che vuol dire non lo so? Che vuol dire non lo so? Come fa uno a dire non lo so di una persona? Cosa vuole che dica? Che vuol dire? Ho detto, sto zitto, sono stato zitto e sto zitto ancora. Ma che vuol dire non lo so? Che vuol dire? Non lo so. Vuol dire non lo so. Vuol dire non lo so. La professoressa dice non lo sa se ha avuto il virus Zingaretti. E lei dice non lo so. Esatto, allora, non lo so. Può dire che non lo sa, può dire che non lo sa. Non lo sa. Ma vabbè, che allora... cazzo vuol dire che non lo sa? Oh signore Dio. Oh signore. Lorenzo, lei è divertente quando ce la mette tutta. Lei non posso dire altrettanto. Lei è un gatto nelle mutande. È un gatto dentro le mutande, lei. No, ma è un'immagine, è una metafora per dire che è fastidiosa. Ma lei vuole essere fastidiosa. È una metafora, certo. È un gatto nelle mutande. Ho detto che è un amico. Vado via. Però per accusare Conte davanti a un tribunale, signora Mariani, ci vuole qualcosa di più, però, dico io. Ma cioè, non l'ho mica accusato io. L'ha accusato qualche grande avvocato oggi. Lo accuseranno altri grandi avvocati. Perché se un governo è incapace, va a casa. Questo non c'è dubbio, ma alcuni sostengono pure che ci sia, anzi no, lei l'ha detto, che ci sia addirittura un piano per distruggere l'Italia da parte di Conte, o no? Ma guardi, che questi ci vogliano consegnare allo strozzino europeo, credo che sia sotto gli occhi di tutti. A lei pareva il momento, per esempio, che in piena crisi e con la media di 1000 morti al giorno si parlasse di MES? Che cosa vogliono? L'argenteria residua? Che cosa dobbiamo dare più a questa Europa nella quale, ripeto, crede solamente Gentiloni e quelli come Gentiloni? Anche Parenzo crede all'Europa. È un problema di Parenzo, è un'opinione di Parenzo e io la rispetto come tale, punto. Fine. Parenzo, cosa vuoi dire in ultima analisi alla professoressa? Anzi, no, professoressa no, perché un po' si offende. Allora, a Ornella Mariani, ha detto una serie di follie oppure no, secondo te? Andate tutti e due a quel paese. Ma che tutti c'entra? Scusa, come ci vado insieme? Ma che vuol dire? Tutti e due insieme. Ma che vuol dire? Io sono zitto ad ascoltare perché volevo capire fino a che punto sarebbe arrivata la follia. Lei considera inadatto e incapace il governo Conte. Ha parlato addirittura degli immigrati. Ha messo in dubbio la malattia di Zingaretti, che sono dei medici per certificare. Non è che uno si inventa di avere il coronavirus. E questa qui, questa professione, non so. Io non ho idea neanche chi. I mostri qui arrivano alla Zanzara come dei funghi nascono. Nascono come funghi i mostri. No, perché cosa contesti? Tutto, ma una che dice che Zingaretti non ha avuto il coronavirus, quello già avrebbe denunziato che ci Cruciani, sono dei grandi avvocati che sono problemi. Dimmi, chiudo o parlo. Dimmi. Io non ho detto che Zingaretti non abbia avuto il coronavirus, ho detto che non lo so. Io ho detto invece che gli immigrati continuano ad arrivare e che il governo se ne fotte dell'allarme lanciato dall'OMS circa la diffusione del contagio in Africa. Le pare poco? Guardi che quelli che arrivano, qua sono controllati come sempre. Non le chiuda l'Italia? Cioè, secondo lei il coronavirus potrebbe essere portato ancora dagli immigrati che arrivano? Ma scusi, ma vengono da dove? Dall'Africa sicuramente. E allora, se c'è una pandemia anche in Africa, lei pensa che questi signori, che peraltro arrivano già dotati di mascherine, quelle mascherine che non troviamo noi, facciano bene viste? In questo momento? Ma dove le ha viste le mascherine? Ma dove si informa lei? Su Topolino? Dove le ha viste le mascherine? Immigrati che sbarcano con le mascherine? Quello che mi manda lei al ma mattino, dove si informa? Dove ecco, si informa giornale, lei? Cambi giornale dove anche si lei. Informa? Ma me lo dica, mi incuriosisce molto. Lei. Voglio leggere e fumarmi le stesse cose che si fuma lei. Dove fumo, le legge? Sa, dove... Ma è io strano, lei strano, strano. Però lei si fuma della roba ottima. Cosa, lei evidentemente cosa, si fuma delle cose ottime. Un'ultima cosa da Ornella Mariani che è questa. Lei dice che dal suo balcone vede della gente bighellonare. Ma dov'è questo balcone? Dove si trova? Dove vivo. Ah no, perché vede degli immigrati sotto casa? Ma quanti ne voglio? Ah, che ne ma so io? Siccome ma la casa... quanti ne voglio? Ma quanti ne voglio? Perché lei non li vede in circolazione? Ma no, io non ho il balcone, per cui ce l'ho, ma non ho il balcone. Come tutti, cosa vuol dire? Circolano. Circolano degli immigrati. Vabbè, circolano perché uno e che può... devono fare? Circolano? Che vuol dire circolano? A me circolano i coglioni quando sento queste robe. Che vuol dire circolano? Lorenzo, ma siete voi che mi avete chiamato? Giustamente. Non ho chiamato ma io, voi, certo, ma io infatti, questa ma io alzo le mani al coglioni, cielo. Che è l'unica cosa che lei può attivare. Ma come si permette? Alzo le mani al cielo, alzo le mani al cielo, scusa, invoco pietà, e invoco tutte. pietà. Come si fa a dire circolano? Che vuol dire circolano? Aspetta, su una cosa siete d'accordo, sul fatto che la preghiera di Salvini è inopportuna, per esempio. Ma, vabbè, ma che vuol dire? Lo vedi, tu un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta. Ho trovato un punto d'incontro tra Ornella Mariani. Sì, un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta. Vabbè, addirittura. Questo è vero, ma la domanda che le farei, Parenzo, è perché mi hai chiamato? No, ho chiamato io, infatti. Questa no, è una ottima domanda. Ma infatti io sono l'unico co-conduttore che va contro. No, ma lei ha ragione. È una domanda, guardi, merita rispetto ed è molto legittima. Perché io sono l'unico co-conduttore nella storia. No, ma glielo spiego, glielo dico. Questa è l'unica trasmissione in cui i conduttori non solo non sono d'accordo su quello che fanno, perché questo è evidente. Si autoinsultano e insultano il loro ospite. È un unico nella storia. Questo perché è divertente. Sì. E questo è così. No, ma è questo drammatico. È perché io non sono assolutamente d'accordo cosa con quello dalla, che viene fatto qui. Dalla dottoressa Mariani, che è questa. Lei quanto non sopporta gli immigrati clandestini che arrivano in Italia? Cioè, lei li considera addirittura questo feccia, questo appunto, questo sì. Ho sentito. Chi ha detto sta roba? Sì. Li considera feccia. Ma come sì? Ma lei quando la domanda non ha la risposta che gradisce si impacca. Esatto, ma se sì. mi fanno orrore. Dice quello che pensa. Se per lei è feccia, punto e basta. Dai. E cioè, allora, gente che scappa e che affronta qualunque avversità pur di trovare la libertà, gente che scappa da guerre, da fame. Lei ma dice scusi, feccia, Parenzo, la professoressa. Ma feccia, c'è una guerra feccia. In Marocco, ma c'è una guerra in Senegal, ma c'è una guerra in Tunisia. Ecco, cosa legge lei? Dove le leggi? Dove secondo leggi? Lei, cosa ma legge? Secondo lei, ma secondo Tunisia, lei chi scappa Marocco, scappa perché vuole Senegal. Venire a vedere la faccia della professoressa qui? Secondo lei la gente che scappa perché? Secondo lei? Perché gli fa perché viene in vacanza no, qui? Perché gli fa piacere? Gratuitamente. E cioè, qui è chi scappa dalla propria terra di faccia preferisce quella della Lamorgese piuttosto che la mia ed è anche giusto della prefetta, un abbraccio a del presto prefetto, grazie Cruciani grazie. Buon lavoro ciao. Buonasera ciao. La Zanzara. Vorrei dire a quel pezzo di merda di camionista fascista che ha chiamato per attaccare Paco, perché lui mangia i panini, lui qui, lui là, brutto pezzo di un imbecille che non sei altro. Quant'è la paga tua e la paga di Paco? Quant'è? O pezzo di un imbecille che prenderei 5.000 euro al mese e Paco ne prenderà 1.400, o pezzo di un cretino, sei proprio stupido come tutti i fascisti. Ti auguro solo di diventare comunista, questo ti auguro, perché sei proprio un imbecille, per d'altronde uno che è fascista non può essere che un cretino. Down, down, down, il grande Paco, da delegato sindacale a delegato sindacale, operatore nella sanità, un grande pugno chiuso, perché nel culo lo devono prendere sempre gli operai. Dai Paco, dai! Mamma mia Paco, sei un gigante, sei il numero uno. Ci dovrebbero essere almeno 1 milione di immigrati come Paco. Glielo pago io il biglietto per venire in Italia, se in cambio gli diamo sta manata di coglioni ignoranti come quel camionista di merda e tutti i suoi colleghi che per il 90% sono solo bestie, schifose e ignoranti. Grande Paco, numero uno. Cioè Parenzo, fai veramente schifo. Pur di difendere Paco che ha detto una stronzata che mangia al panino. Ma che cazzo vuole Paco? Io sono avvocato e sono 2 settimane che non sto a lavorare. Ho guadagnato 100 euro sto mese. Che cazzo vuole Paco? Si lamenta perché mangia al panino. Ma se stesse zitto. Come avete sentito, fa molto discutere l'intervento di Paco da Belluno della settimana scorsa, che si dice disperato per le condizioni in fabbrica, ma soprattutto perché mangia un panino in macchina. Dice, tra le altre cose, un panino in macchina. Ci dobbiamo cambiare adesso in condizioni. Vi voglio fare ascoltare, a parte che c'è una piccola considerazione da fare, anzi due considerazioni. Allora, uno, si può fidare, secondo voi, di uno Stato sulle capacità di ripresa? Io sono molto pessimista in questi giorni. Uno Stato che non è riuscito a ricostruire, per esempio, nulla dal terremoto dell'Aquila, o molto poco, comunque. Io non mi fido delle capacità di ricostruzione di uno Stato. E di questo Stato qua, a prescindere da chi è alla guida, a prescindere da... Non mi fido, purtroppo, perché abbiamo degli esempi terribili. Abbiamo anche dei buoni esempi del passato, ma soprattutto di recente. Vabbè, certo. Degli esempi terribili di capacità di, non di riprendersi delle persone, delle imprese, dei singoli, ma dello Stato, dello Stato. Però ad esempio guarda dopo la tragedia del Ponte Morandi, guarda a Genova, che quelli sono casi singoli, appunto, cantiere, casi singoli, esempio, no? Casi quella... singoli. Certo, casi quello singoli. Quello è un esempio buono per una città che è stata distrutta casi dal crollo singoli, del ponte, una città, casi un paese. Casi singoli. L'altra considerazione è... l'altra settimana è intervenuto un tizio che diceva il reddito di cittadinanza, ti ricordi? Tu hai detto no, il reddito di cittadinanza in questo momento toglierlo è una follia, eccetera. Può darsi, sì, ma c'è. Perché questi che prendono il reddito di cittadinanza? Meno male che c'è, anzi. Però, cosa dire? Io ero tra quelli contrari, Perché? Però oggi devo dire meno male che c'è. Perché? Perché? Io no, comunque. Perché non vengono utilizzati come mano d'opera? Cioè, siccome comunque dovrebbero essere utilizzati, questa è un'idea che mi è venuta dal direttore del giornale dell'Umbria. Il quale mi ha detto perché questi Davide Vecchi, sì, il perché Vecchi, questi comandante Davide Vecchi, questi qua che prendono reddito di cittadinanza dovrebbero essere utilizzati come persone che vanno negli ospedali che stanno per essere costruiti, certo, ovviamente certo, non certo. Nelle situazioni di rischio, non avendo nessuna competenza dal punto di vista infermieristico e medico, per esempio nella costruzione di ospedali da campo, nella raccolta di frutta e verdura. Tutti questi che stanno senza fare un cazzo, adesso obbligatoriamente senza fare un cazzo, con il reddito di cittadinanza, dovrebbero essere utilizzati per lavori di pubblica utilità. Buona idea. Dai, cazzo. Emilio da Bergamo, dai, Emilio. Sì, ciao, volevo... Dimmi. Volevo sulla preghiera di Salvini. La preghiera di Salvini, secondo me, è apprezzata da tutti i fedeli di tutti i giorni, cioè... non dall'intellettuale fedele eccetera eccetera, ma dai fedeli, cioè come me, che alla domenica vanno a messa, che credono in Gesù, credono in Cristo, e è apprezzata dalla gente normale, cioè viene vista un po' da gente come noi, da gente normale, come una cosa sincera che Salvini in quel momento... È l'errore che fanno tutti. A me non piace, ripeto, io scindo le valutazioni. A me non me ne frega un cazzo e mi fa orrore una preghiera in televisione, come tutte le preghiere, non me ne può fregare di meno, non mi fa nessun effetto, non mi fa effetto certo, il Papa io da non solo. La come vuole. Emilio invece ma si vede che tu ma si vede però tu è evidente. Cazzo, no, ma è evidente, vede, è evidente che invece no, ma si vede anche a Parenzo che non gliene frega niente, cioè non è che ci vuole una cima per capire che a voi non interessa niente. Che cosa? Si capisce. Come la dottoressa che è intervenuta prima, la dottoressa, e si dichiara cattolica dopo quello che ha detto, cioè Ma vi rendete conto la confusione che c'è in questo momento? No, però scusami Emilio, qui stiamo parlando di un fatto particolare. Allora, due signori, Barbara Duzzo e Salvini, che si mettono a fare la preghiera per i defunti, in diretta su Canale 5. Io penso che sia una cosa che le persone che non sono così dei fini intellettuali, le persone che hanno avuto dei morti, sentono questa preghiera e a queste persone magari credono. Ma cosa vuol dire? Ma si prega, ma per i morti? Ma guarda che c'è una tradizione, anche gli egiziani pregavano per i morti, gli antichi romani pregavano per i morti. Cioè, sì, ho capito, non lo facevano, in diretta televisiva, in un programma di intrattenimento. Però, allora, la Barbara D'Urso, tanti dicono che guardare la Barbara D'Urso è un'offesa all'intelligenza, e posso essere anche relativamente d'accordo. No, io non entro nel merito di questo. Ma se la Barbara D'Urso ognuno guarda quello che gli pare tutte le sere, che problema c'è? Perché non nessuno lo può fare? No, ma infatti, ma nessuno ha detto che non lo può fare. In giro con le tette al vento, che almeno è brava e buona e piace a quelli di sinistra. Punto di domanda. No, ma ha ragione da questo punto di vista, ha ragione Emilio, perché noi ce la meniamo troppo, va bene, noi critichiamo, siamo lì a prendere per il culo, per me infatti, a me scappa una risata, cioè non è che mi fermo lì a pensare, oddio, ma ecco la preghiera. Scusa, a me però una risata su una cosa seria che è. No, invece a me scappa una risata perché due che si dell'Occidente. No, lascia perdere Emilio, lascia perdere sta roba, non affidiamo la cultura dell'Occidente a cose. No, scusa, magari non mi sono tra virgolette cultura, cioè la religione cattolica cristiana ha dato una cultura con l'antica Grecia, eccetera, eccetera. Vabbè. Ha dato una cultura a questa tradizione occidentale. Va bene, Gianluca da Bologna, dai, mi hai rotto il cazzo però adesso. Gianluca da Bologna, dai, dimmi. Dimmi. Sì, però scusami, non sento bene, Gianluca, non sento. Senti? Sì, dimmi. Si sente male. Senti bene adesso? Adesso sì. Dimmi. Ecco, io ti ho chiamato per un'altra cosa, però ho sentito anche questa roba nella D'Urso, secondo me è stato il momento più basso di tutta la televisione italiana massimalista. Sì, no, ma io lo capisco. Lo capisco questo, quello che dici tu, però non, il momento più basso. Innanzitutto se ne parla. Quelli che sono a casa cattolici capiscono chi sei il Papa. Non c'era quell'immagine lì in televisione. Niente, non si capisce. Roberto da Torino, dai, non si capisce un cazzo. O ci colleghiamo meglio con Gianluca oppure non si capisce. Roberto, dimmi. Ciao. No, volevo solo far passare un messaggio. Cioè, per carità, tutto legittimo, però non fate passare Cairo, secondo il mio giudizio, come un mecenate illuminato. Cioè, vuol dire, non è un imprenditore illuminato. Cairo è il classico padrone delle carriere, punto. Ma la beneficenza che fa, che ne sa lei? Allora, Roberto da Torino, il paragone tra Cairo al padrone delle ferriere è ridicolo, perché non esistono più i padroni delle ferriere. Cairo è un imprenditore che ha diverse esistono e come. No, cioè, va bene, ma non è che i padroni delle ferriere non esistono più come un tempo, i padroni delle ferriere. È un'immagine Cairo ha fatto un discorso, folle. Manco l'abbiamo mandato in onda, magari dopo lo mandiamo un pezzetto. No, ma posso dire quello che ha detto Cairo è legittimissimo. E allora di che parliamo? Chi lo sta facendo passare? Motivare in questa maniera. E allora, appunto, il discorso si chiude lì. Però c'è anche da dire l'altro lato della medaglia. Cioè, che ogni cosa? Giorno esce un comitato di redazione. Ma chi se ne frega di queste cose qua? Ma chi se ne frega di queste puttanate? Non me ne frega niente dei rapporti. Roberto, a me dei rapporti tra Cairo e i suoi dipendenti non me ne frega un cazzo. Ma sono cazzi loro. A me non me ne frega niente. Io sto parlando di una cosa più importante, dell'impatto pubblico che hanno avuto le parole di Cairo, che erano indirizzate alla sua rete vendita e che invece sono state diffuse. Questo impatto pubblico, aspetta un attimo. Cairo è stato fatto passare come un dalla rete, dall'internet, non so da chi, come un cinico che pensa ai suoi interessi. No, sbagliatissimo. E allora di questo si sta parlando, basta. Quello che ha fatto, perché anzi, e allora basta, Michele da Como, grazie Roberto, Michele da Como, dai. Sì, ciao a tutti. Dimmi. Volevo dire, in questa situazione così tragica, dove sono finiti i movimenti delle sardine? Non lo so, dicono che hanno fatto una raccolta di fondi, non so perché. Certamente, come tutti i movimenti di piazza, in questo momento i signori delle sardine sono assenti perché non possono andare in piazza. Certamente non hanno questa grande presenza dal punto di vista della solidarietà, diciamo, no? Però certo, sicuramente perché qualche gesto l'avranno fatto, anzi ho letto da qualche parte che qualche gesto è stato fatto, non lo so. Ma non perché me ne frega un cazzo. A me delle sardine non me ne fregava. Le tendopoli. No, sicuramente non è pieno di sardine a costruire le tendopoli. Magari qualche singola sardina... qualche singola sardina ci sarà. Sono lì. Ah, gli alpini, gli alpini sicuramente, però adesso sono due cose diverse le sardine e gli alpini. Certo, cioè, in questo momento mi fido più degli alpini nel costruire un ospedale di campo piuttosto che quattro scappati di casa. Fermo lì, fermo. Sicuramente. Fermo. La zanzara. Scusate, ma come fai a difendere quella mentecatta di Angela dicendo il popolo, vergogna, vergogna, ma Angela, ma che cazzo ne sa di che cosa sta facendo il governo, di come cazzo si deve muovere in mezzo all'Europa, in mezzo alla burocrazia, ma secondo questa cazzo di Angela, se Conte potesse non darebbe soldi a chiunque in un nanosecondo? Evidentemente non può, evidentemente ci sono dei cazzi che deve controllare anche lui. Come fai ad appoggiare l'ignoranza? Minchia, Cruciani, che due coglioni che mi fai venire quando fai così. Mi stai sui coglioni quando fai così. Per il resto ti amo, ma quando fai così mi stai sui coglioni. Cruciani, io vivo da solo, non ho la famiglia, ho una villa con un giardino gigante, la piscina del cazzo, i fiori, il cane, lo stradello privato. Per me non è cambiato un cazzo con questo coronavirus. Io me ne sto in giardino o in casa e quando sono in giardino grigliate a base di champagne. Che cazzo me ne frega del virus, del culo, del buco del culo. Definire incapace questo governo è un complimento. Il decreto per chiudere, per sospendere i mutui, è un mese che stiamo a casa, distrutti. Il decreto è uscito venerdì, sabato e domenica le banche sono chiuse. Questa mattina il disastro più totale, non si riesce a fare niente. È un branco di incapaci, incompetenti, a dir poco, per non andare oltre, non andare oltre. Allora, prima di chiamare a Palermo il rivoltoso Salvo Caruso, caro Parenzo, il rivoltoso di Palermo. Ecco, mancava in questo menù del giorno. Posso del dirti giorno, una cosa? Qualche volta i gesti, anche le parole, sono importanti. Io non so adesso in questa diatriba chi ci aiuta, chi non ci aiuta, l'Europa, non l'Europa, gli stati, quelli più egoisti, la Germania, l'Olanda. Abbiamo sentito prima le parole molto forti di Tullio Solenghi contro la Germania, secondo me assolutamente appropriate, poi magari nei modi, ma chi se ne frega, non è questa la trasmissione che dà le bacchettate sui modi. Però il premier albanese, ora il premier albanese, amico mio, Se la signora Merkel facesse un discorso così, le cose cambierebbero molto, molto dal punto di vista dell'immagine. Invece un discorso così lo fa il premier albanese. Il premier albanese. Presidente, premier, che cos'è? Non mi ricordo. Cos'è, premier o presidente? Premier albanese. Numero uno assoluto. Rami, premier albanese. Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. Ma so anche che anche laggiù, oramai casa nostra, da quando l'Italia e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l'Albania bruciava di dolori immensi. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Grandissimo. Allora, andiamo. Da brivido. Andiamo, Salvo Caruso, il rivoltoso di Palermo. Pronto? Sì, Caruso? Sì? Sì, buonasera, qui Radio 24, come andiamo? Ma a posto, siamo a casa. Che è successo? Sento un casino pazzesco sotto, che? No, no, è la televisione, stavo guardando la TV per quello che dicono. Che dicono? ma mandano in onda giustamente quello che gli fa più comodo, no? La televisione? Ma mandano in onda qualsiasi cosa, mandano in onda, amico mio. Cioè, no, nel senso che il mio video hanno preso solo i pezzi, quelli che li fanno più comodo, no? Fanno più audience. Beh, tu hai detto che sono... hanno mandato su Mediaset la Barbara D'Urso. Vabbè, hanno detto, hanno preso i pezzi in cui tu dici che se non arrivano i soldi facciamo la rivoluzione. Ma infatti, no, ma qui sì, facciamo la rivoluzione, io parlo giustamente, cioè non è che ci vuole la scienza a capirlo, no? No. Che succederà una cosa del genere, non è che io scendo a fare la rivoluzione, cioè non sono nessuno. Si capisce che se non si prendono velocemente le giuste... non si mettono velocemente le giuste regole, non arrivano i soldi alla gente, mai compreso che sono un cittadino. Sì. Si, succede questo, ma è la matematica, cioè, non ci vuole la scienza a capire che se arriva a quello. Salvo, ho capito, tu sei un comico, però tu hai detto o arrivano i soldi o scoppia la rivoluzione, spacchiamo tutto, facciamo la rivoluzione. Non mi interessa se poi mi arrestano, non è che parlavi in generale, no. Non è che facevi tutto un discorso. No, devi guardare bene. Perché non mi interessa se mi arrestano, perché sto parlando male dei politici, perché per me rimanete quattro buffoni. Lei è un irresponsabile. Ha detto quello che è Parenzo. Con chi il piacere di parlare in radio? Con Parenzo, mentre lei è un irresponsabile. Ma ha detto quello che pensa, dai, su, ha detto quello che pensa. Irresponsabile. Dottore Valenzio? Parenzo. Valenzia, non c'è problema. Non lo conosco completamente. Ascolti. No, neanch'io la conosco. Né umanamente, né personalmente, per fortuna. Il mio giudizio, avendola ascoltata, è che lei è un grande irresponsabile. Allora, io credo che la democrazia c'è libertà di parola per tutti, e questo è uno. Sì, giusto? Vabbè, sì, ma quello non c'è. Non è che può dire prendiamo le armi, scendiamo in piazza, spacchiamo tutto, ma che vuol dire? La libertà di parola che c'entra con questo? Ma lei di che cosa mi vorrebbe accusare? Ma no, di irresponsabilità. Ho detto che lei è un irresponsabile, è una persona irresponsabile. Io le dico una cosa, signore, che mi scordo. Parenzo. Se lei non avesse nemmeno un euro in tasca, giusto, lei farebbe di più di quello che io ho solamente detto. Giusto, lei avrebbe fatto i fatti. Giusto, okay. Giusto, ha ragione. Sì, glielo dico io, garantito. Se lei non avesse nemmeno un euro in tasca, lei avrebbe fatto i fatti, non le parole come ho fatto io. Ho messo la faccia per i miei cittadini. Guardi che in questo momento ci sono ma quali sono i cittadini? Qui ci sono un sacco di persone che hanno problemi ad arrivare alla fine del mese sognerebbero di dire le stronzate irresponsabili che ha detto lei. Quindi si vergogna a fare il portavoce, il portabandiera. Calma, fallo parlare. Lui anche allora, un po'. Senti l'altro. Il soccorso rosso. Semmai non si sognano di fare ciò che ho fatto io, cioè mettere la faccia, ma in molti vogliono farlo. Io quel video è stato fatto perché prima che io lo facessi mi sono arrivati 20.000 messaggi che la gente voleva andare a fare quello che io ho detto, e io nei messaggi dicevo state calmi, farò un video per tutti. Calmi, ma chi sei tu? Togliatti che dice state calmi, chi sei? No, allora, ascolta. Salvo, a lei quante persone la seguono? Lei segnali queste persone che hanno un disagio e che hanno bisogno, anziché aizzarle, brutto irresponsabile. Ascolti. A me se arriva un messaggio di uno che mi dice ho bisogno, non gli dico vai in piazza e spacca tutto, gli dico cerchiamo di trovare una soluzione, si prova a capire come raggiungere l'assessore alle calma, politiche salvo, sociali. Salvo, io non ho capito una cosa, tu, lui dice tu sei un irresponsabile perché hai detto se non arrivano questi soldi, se non arrivano i soldi subito facciamo la rivoluzione. Non dico... I miei compaesani vanno a fare la rivoluzione, mi ci metto anche io nel mezzo, perché già sapevo che doveva succedere quello, essendo che mi seguono 300.000 persone, dove che noi regaliamo un sorriso, e quando 20.000 persone mi scrivono Salvo siamo disperati, non ridiamo più, stiamo morendo dalla fame, siamo pronti a scendere, io mi sento male, perché nella mia vita ho sempre regalato un sorriso, e quando vedo 20.000 mie fans non ridere più perché stanno morendo di fame, ti si strazia il cuore. cuore, ti ci metti davanti mettendo la tua faccia. Ora se lei, signore che butta voci, si vuole fare un po' di pubblicità parlando con me, ma che pubblicità? Una cantonera in pieno, ok? Ma che pubblicità? Semmai è il contrario, caro attore. Lo ripeto, lei è un coglione irresponsabile. Aspetta, aspetta. Il messaggio non è quello, il messaggio è far capire che succederà quello. Se poi la gente non ha, ma sono cose che vanno scongiurate. Essendo che mi sono messo in primis io, è arrivato ovunque. Beh, hai detto, facciamo... mi sono messo in primis. Ho capito, facciamo scoppiare la rivoluzione a Palermo. È come dire, amici miei, se non arrivano i soldi la settimana prossima, è giusto andare a sfasciare i supermercati. Questo tu dici? No, non è assolutamente giusto. Beh, praticamente, ho capito, però è la gente... un messaggio per dire a Orlando e al Conte, non facciamo arrivare a questo. Perché è normale che arriverà a questo. Ha detto delle cazzate. Non è che la gente la settimana prossima non riesce a mangiare. Adesso non esageriamo, Caruso. Non è che la settimana prossima la gente non mangia. No, questa settimana, no la prossima settimana. Cioè questa settimana ci sarà gente che non riesce a mangiare. No, c'è gente che non mangia da giorni. Purtroppo noi che abbiamo un pezzo di pane non riusciamo a capire la gente che non ce l'ha. Ma gente come il signore che mi punta il dito, signor Parenzo sì. Evidentemente non capisce, conosce la fame. Non lo capisce. Non è che non lo capisce, perché è intelligente. Io credo che sia una persona abbastanza intelligente. Lei conosce solo la fama. Lei conosce solo la fama, lei. Io spero che arrivano gli aiuti a queste persone meschine che non possono mangiare, ci arrivano veramente da mangiare, stanno tutti più cari. Ciao amico mio, ciao, ti abbraccio. Sei cazzato perché gli ho detto ti abbraccio. No, sto parlando tra me e me, ovviamente. Lui gli dice ti abbraccio. Uno delira e dice grazie. Voglio far saltare lo Stato, maledetti. Dare l'assalto. Grazie per aver chiamato. Ti abbraccio. Altra telefonata. Incredibile. Una cosa incredibile. Francesco dalla provincia di Matera. Ecco, un altro e si volta a pagina. Un altro. Tutto normale. Dimmi, Francesco. Volevo dire, per quanto riguarda le mascherine che parlavano, che hanno difficoltà, io venerdì scorso scendevo perché faccio il camionista e ho fatto due o tre soste. C'erano le mascherine a 2,50 euro. Dei pacconi da almeno 100 mascherine sui banconi delle autogrill e la polizia ci prendeva, ci diceva con educazione di farci di bere il caffè fuori. Perché non prendevano queste mascherine e le portavano i dottori? Bisogna vedere che tipo di scusa, lo dicevano al compagno Capanna, avrebbe sequestrato. Sono quelle là che usano la gente in giro che c'è adesso. Sì. Che non servono un cazzo, quelle chirurgiche. Le fanno vendere. Francesco, quelle senza la valvola, quelle chirurgiche. Poi volevo rispondere al compagno Paco, se cortesemente. Paco, come no? Sì, sicuramente sarà all'ascolto. Il compagno Paco, che si lamenta che si mangia il panino, deve capire che noi camionisti ci siamo trovati da un giorno all'altro a non poter mangiare più. A non poter cagare più perché nelle liste nessuno ci faceva entrare. Si mettesse nei panni dei camionisti. E ancora oggi siamo in queste condizioni. I soldi che ha preso la protezione civile, dove cazzo sono? Perché non fanno un presidio dove noi possiamo ristorarci, dove possiamo lavarci le mani? Ma stiamo scherzando, ragazzi. Sai che ho intenzione di fare, caro Parenzo, un grande format. Anche a me è venuto l'idea. Fare sempre una marchetta per quanto riguarda un brevetto che io ho fatto, ricorda. Ma che ne so io, Francesco? Mi chiama tanta gente. Tu non sei ne so, un brevetto. Perché la gente che ha bisogno di una. Sì, ho fatto un brevetto per camionisti e ti ho scritto un paio di volte. Non ho mai scritto uno, non mi hai mai risposto. Evidentemente non vedi che saltano fuori tutte le cose. Quell'altro stronzo di Parenzo che faceva la radio sociale è morto completamente. Ormai tempo al tempo. Francesco, bisogna fare un grande format tra camionisti, le varie tendenze politiche tra camionisti, no? Le cose. Quello stronzo lì di partista del cazzo, una piccola percentuale, quel piccolo padroncino di merda evasore. Calma, ma quello di Bergamo. Me lo deve dire a me quanti viaggi ha fatto con le bolle. Domani te lo chiamo, un grande scontro domani. Figlio di puttana. Francesco dalla provincia. Calma, in questo momento è importante far parlare i camionisti. Domani grande scontro, Francesco dalla provincia di Matera contro Bergamo. Com'è che si chiama? Emilio, se non mi sbaglio, no? Emilio. Non lo so, il testa di cazzo fascista. Silvano da Bergamo. Sì, Silvano da Bergamo. Dobbiamo toccare i coglioni quando sentiamo Silvano adesso. Fermi tutti. Bravo. La Zanzara. Questa situazione di cazzo, dove il Covid-19, coronavirus, come cazzo si chiama, maledetto coronavirus, dove è bloccato mezzo paese, siccome voi tre, Gottardo, Parenzo e soprattutto te, Cruciani, taccagno del cazzo, devi evolvere il tuo stipendio, il vostro stipendio, quello che guadagnate se siete partite IVA o stipendiato come siete, Cruciani, devolvere il 75% alla povera gente che non arriva neanche a firmare, proprio non arriva proprio perché non li guadagna neanche. Devolvere per portare la spesa, quello che vuoi. Siete delle teste di cazzo! Taccagnacci! Porca puttana! Devolvete quei cazzo di soldi che avete! Porca puttana, non dico di toccare i soldi della banca vostra che ne avete a milioni, ma di evolvere quello che guadagnate ora in questa emergenza di 2, 3, 4, 5 mesi. Taccagnacce del cazzo, per te Cruciani con 4-5 mila euro al mese non vai avanti, cazzo, maremma puttana, porca puttana, taccagnacci del cazzo, porca vacca. Guagliun, cosa ha detto Conte? Metti la mascherina, togli la mascherina, metti i guanti, togli i guanti, dovete stare in casa, andare a fare la spesa, mentre stai a fare la spesa, sta a fare un cammino, dove stai andando? A fare la spesa, ma non sicuro che puoi andare, dove abiti? Dove non abiti? Stai a 200 metri da casa tu, che se stai a 300 metri puoi dire verbale, no, sono 200 metri, ma fare la spesa veloce a casa, vai a casa, buon fuoco a chi mio padre, vai a trovare papà, abito, ti fermi i cammini, dove stai andando? A trovare papà, chi è tuo padre, è anziano, sì, puoi andare, non puoi andare, non lo so. L'autocificazione dove sta? Quella nuova, quella vecchia, la tripla, la quarta, la quinta. No, vai a casa, no, non esiste, vai a tuo padre, vai veloce a casa, non direi da nessuno. Dovete stare dentro casa, che si fa? Ti alzi e mangi, alle 10 e mangi, mezzogiorno e mangi, pomeriggio e mangi, la sera e mangi, la notte, fricca e mangi, i soldi non ci sono, fricca e mangi, i soldi non ci sono, fricca e mangi, i soldi non ci sono. Oh, ma che cos'è, uffa? Ma che cosa c'è? Tanto chi te muore? Allora, Giuseppe dalla provincia di Benevento, intanto qualche prete dice che la preghiera di Salvini e della D'Urso in diretta è pornografia. La preghiera in diretta TV di D'Urso e Salvini è peggio della pornografia, quei due non stanno bene, lo dice un signore che si chiama Don Ciro Miele, vabbè, Giuseppe dalla provincia di Benevento, ma qui naturalmente ci si divide tra i preti anti-salviniani e i preti salviniani, vai. Niente, cosa io volevo rispondere a quel ragazzo che ci ha preso per il culo noi camionisti. Senza di noi camionisti lui si morirebbe di fame. Ma chi l'ha fatto? Chi l'ha detta questa cosa? Quel ragazzo che ha parlato di pago e roba varia, che noi camionisti siamo tutti in merda, che prendevamo 5.000 euro al mese. Ma magari. Non lo so, ma quello è un messaggio di qualche matto che ha mandato un messaggio. Comunque, Giuseppe. Noi siamo tutti fascisti, noi camionisti, perché ci piace la libertà, essere liberi dentro nello spirito. Ma chi ha detto che siete fascisti? Chi l'ha detto? Ci sarà qualcuno fascista e altri meno? Parenzi dice che noi siamo fascisti, siamo cattivi. Adesso stanno usando anche le leggi fasciste. Stare a casa e stare zitti. Dobbiamo solo aspettare che ci prendano a bastonate. Arrivederci a grazie. Non ho capito, Giuseppe. Tu hai qualche figura del Duce dentro la tua cabina? Sempre. Io l'ho nel cuore e anche nel mio portafoglio. Lo vedi? Lo vedi? Poi dice che non è vero che siete tu. Ci sono un discreto numero di camionisti fascisti, mi sembra, no? Sì, ma pure i poliziotti sono fascisti. No, i poliziotti. Molti poliziotti sono fascisti. Poliziotti, non diciamo cazzate. No, non dico cazzate. Mi hanno fermato, mi hanno detto, ma tu c'avevi una foto di, del Mussolini su Cruscotti, mi hanno detto ma come mai, tu sei fascista? Ho detto sì, sono fascista, perché? Ma pure io, vabbè, siamo in due, bravo. E che dobbiamo fare? Scusami un po'. Scusa, ma Davide, come lo consigli? Però oggettivamente stanno prima si le stessi leggi fascisti, stare a casa sì. Beh, oddio, sì, però ho capito che c'è. Come parlavate prima in modo molto acuto e proprio della questione della defecazione. Poco fa un camionista ha detto c'è un problema a defecare. Sì, parlava di come faccio. Indubbiamente con la faccia di sua eccellenza la defecazione è più facile. Ha ragione, quindi fa bene a prendere. Vabbè, ma tu perché prendi il fascista? Non dobbiamo dire che il fascista ha fatto cose solo brutte, dobbiamo dire anche ha fatto cose buone. Ma tu dove ce l'hai? La figura di sua eccellenza, dove ce l'hai nel camion? Dove ce l'ho su Cruscotto, che mi guarda. Ti guarda? Sì, perché non lo posso. Una volta i camionisti ci avevano le foto del calendario Pirelli, adesso c'è quelle del Duce. Le foto delle fighe. Ma avrà pure quello delle fighe, sicuramente, Giuseppe. Non è che ci avrà giustamente. Ciao Giuseppe. Dobbiamo anche capire che siamo fascisti, no? Ma sei tu fascista? Isolare? No, non dobbiamo capire che siamo fascisti. Si può isolare giustamente. Si può isolare? Però ricordati una cosa. Fra 5-6 anni i socialisti prenderanno possesso anche dell'Italia. Ma chi? Chi? Giustamente. Ma che vuol dire socialisti? Fra 5-6 anni se non saremmo tutti socialisti. Ma che vuol dire socialisti? Ciao Giuseppe. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Eccoci qui. Sì. Stanno qua. Pronte per essere munte. Il grido di battaglia della signora Paola Saulino. Buonasera. Ciao, pronto. Pronto per essere munto. Ma com'è la... Cioè, dimmela bene. Pronte per essere munte. Ti riferivi alle tue... Guarda, provo a ripetertelo perché è una cosa di mesi fa. Sono qui, non se ne vanno, riferimento alle teste, non se ne vanno, sono pronte per essere munte. Beh, amica mia. Chi è la signora? Allora, Paola Saulino sta, è una showgirl, chiamiamola così, una performer, una persona che è molto presente sui social e sta rallegrando un po' tutti gli italiani in questo periodo con i suoi, con le sue stories, come si dice su Instagram, caro Valenzo. Dirette storie, qualsiasi cosa. Allora, una delle più famose riguarda la pecora, perché lei è un amante della posizione a pecora, giusto o sbagliato, Paola? Correggimi. Sì, credo che sia anche una posizione pro-Covid, oltretutto, perché praticamente le facce dei due partner sono molto distaccate. Vero, brava. Di distanza, quindi siamo in piena normativa Covid. Brava, e poi non esistono praticamente canali di trasmissione virale con la pecora, perché le bocche sono ampiamente distanti. Sì, sempre che uno si limiti alla pecora, diciamo, cosa che è abbastanza difficile, però tu suggerisci. È un po' difficile, però è meglio di niente in tempi di quarantena, no? Assolutamente. Dunque, possiamo dire che siccome oggi è venuta fuori la notizia, anzi nei giorni scorsi, che il contagio è anche intrafamiliare, all'interno delle famiglie, noi siamo tappati dentro e in più c'è la possibilità che uno sia asintomatico e dunque il contagio ormai si sviluppi all'interno delle famiglie. Tu dai un consiglio alle coppie che sono in casa, fatelo a pecora, dillo chiaramente. No, allora, io dico fatelo a pecora sempre, in generale. È una cosa che secondo me funziona. Non ho una famiglia, non ho un compagno, non vivo con un compagno in questo momento, pertanto non so dare questo tipo di consiglio, perché è un'esperienza che io non ho. Quindi se il Ministero della Salute dice che ci dobbiamo astenere da questo, io non posso dire altro, anche se secondo me è un poco complicato astenersi dalle effusioni quando si vive sotto però al limite uno può provare quella posizione lì, perché tu dici non c'è il contatto con la bocca, diciamo, sì, se uno si limita non ci sta questa cosa, insomma, io lo farei comunque con una bella mascherina apposita e i guantini, quindi la pecora dovrebbe sconfiggere ogni rischio di contagio. Senti, insomma, ma tu anche nella vita privata ami la posizione a pecora o è semplicemente una tua prestazione, diciamo, di tipo artistico, la posizione a pecora? No, io sono una che è nata proprio a pecora, devo dire la verità, cioè io sto da pecora all'ercia. Ah, proprio sì, così, sì, proprio così, sì, sei nata in quella situazione, tu ami sessualmente in generale? No, ma io non è che amo, è che proprio è il mio corpo che si presta, capisci? È una questione proprio anatomica, quindi io sono proprio bella in quel tipo di posizione, il mio corpo rende molta giustizia in quella posizione. Anche se hai, la verità, anche se hai un sedere che può piacere a molti, che ho visto piuttosto formoso, se non sbaglio. Non sì, è... sì, è proprio per questo, insomma, ci stanno molti tipi di bellezza. Io lavoro nell'industria dell'eros. Sì. E dunque... tanto io non vendo bellezza. Se fossi stata bellissima avrei sfilato per Victoria's Secret. Il mio tipo di bellezza si presta proprio alla pecorina, è un corpo che è perfetto in quella posizione. Beh, quindi questa è proprio che, antropologia, che è estetica, è arte, insomma. No, ma è assolutamente arte, cioè, ci sono persone che nascono a pecora. Paola Savolino è nata a pecora, sì, che vuoi fare, sì, con questo bel culone tondo, diciamo, sì, consistente. Ecco, tu in uno dei tuoi tutorial, diciamo così, sì, più conosciuti, e dai un consiglio su come, per esempio, schiaffeggiare la chiappa, diciamo. Pure, esattamente, pure, sì. Sì, è molto famoso, molto diffuso questo tutorial. Non ci facciamo mancare nulla. Non no, tocca nulla, in questo periodo devo sì, dire che siccome il web spopola di cose che a me non piacciono, come per esempio gente che ti insegna a lavarsi la faccia, che per me è assurdo, stanno dei tutorial di gente che ti insegna a truccarti, ma se non lo fai non puoi saperlo. Invece ho capito che la gente ha bisogno di tutorial su come fare delle piccole cose durante gli atti sessuali. E partendo dalla mia esperienza, qualcuno qualche volta sbaglia lo schiaffo durante la pecora. Ma una pecora senza paccar non è una pecora. Ecco, questo è molto, molto interessante. Cioè, tu dici che la posizione a pecorina senza il sì, colpo, senza lo, lo schiaffeggiamento sulla chiappa della donna, non ha... Una pecora senza paccar, che senso tena? Che senso ha? Questa è la traduzione, diciamo, dal napolese. E dunque, com'è sì, che, cioè, com'è quella giusta? È la botta giusta? Qual è, allora, cara Paola? Se una botta ci sta... Oltretutto non è solo una questione di arrapamento feroce il fatto di dare uno schiaffo, è una questione che potrà veramente far godere la vostra partner, perché tu nel momento in cui lo dai nella zona giusta, che nella fattispecie è dal basso verso l'alto, quindi prima della culottina, cioè quella ciccetta là, è quella che devi andare a colpire dal basso verso l'alto, in modo che la ciccetta muovendosi provoca delle onde che ti fanno un contatto con la zona anogenitale, questo ti procura del forte piacere. Capito? È quel movimento avanti e dietro, dentro fuori, che della ciccetta che sbatte, che mi fa godere tanto durante la pecora. Quindi è un fattore che va assolutamente sottolineato. No, ma assolutamente, sono d'accordo con te, perché è una cosa anche sotto, non solo sottolineata, è anche sottovalutata, perché pensa, sì, uno immagina sì, che sia una cosa violenta, antifemminista, contro la donna. No, al contrario. Senti, la signora Saulino, che non capisco ancora come si procura da vivere, diciamo, caro Parenzo, tu ti sei chiesto come si procura da vivere la signora Saulino? In alcun modo, non mi sono chiesto come ti procuri da vivere tu. Non mi sono chiesto nulla di questa signora. Tutti gli effetti, se tu vai sul mio profilo troverai una serie di pubblicità o sì, delle... sì, assolutamente. Poi? Sì, e poi faccio la fotomodella e quindi in qualche modo c'è un'altra entrata, e poi faccio anche quelle che sono le serate, gli eventi, non so come lo chiamate. Tante cose insieme, tante cose sono insieme. Che sera, che può allora, essere una dimmi, dimmi, le no, serate dimmi, gli dimmi, eventi? Dimmi, no, no, perché tu mi stai chiedendo, siccome io non sono una escort e tu in qualche modo mi stai chiedendo, no, se chi io te lo faccio... sta chiedendo? Lui, Parenzo, te lo sta chiedendo, no, io no. No, io non voglio, quando uno dice le serate, io faccio testo a pagamento, io il cazzo no, lo prendo perché mi dico, piace, le... ok? No, come dice signora, scusi, non ho capito. Diglielo chiaramente, cazzo, lo prendo perché mi piace, non perché qualcuno ne vada. Non avevo sentito, sia chiaro, sia chiaro, sia chiaro. Sono diventata a tutti gli effetti una performer di burlesque, quindi chiudo serate dove ci sta questo spogliarello, che è il classico spogliarello di burlesque. Una persona chiamata Dita Fontis guadagna 80.000 euro a serata quando chiude una serata. Capito? Di capito? Performance. Senti, voglio capire da te, scusami cara Paola, è quello che faccio. Cioè, voglio capire da te, per esempio, quindi tu, sostanzialmente uno organizza una cena a casa, non sia arrivata la televisione o che non faccia televisione non vuol dire che uno non lavora. No, no, no, web, ma quindi io mi chiedo, uno organizza una serata. No, ma questo io ho capito. Uno organizza una cena a casa, ad esempio a me capitava prima del coronavirus di organizzare tanto delle cene a casa con degli ospiti, delle persone, Giuliano Ferrara e altri, e a un certo punto uno invita lei e lei fa questo spettacolo di burlesca a casa, io così? Io lo faccio nei locali con dei locali appositi che si, ci stanno i biglietti, si sbiglietta normalmente, faccio anche serate in discoteca quando una serata in una discoteca normalissima che fattura quello che fattura, non sono mai stata proprietaria di un'attività. E io entro come ospite. Però parliamo di cose, parliamo di cose più serie. Parliamo di cose molto interessante questa cosa. No. Però no, non faccio spettacoli di tipo privato, ecco così. Ecco, ma se tu stai con gli amici e mi inviti, no, non è possibile. Senti una cosa, ma tu, per esempio, non si preoccupi che non avviene, non avverrà comunque, quindi non si preoccupi. Ma non avverrà. No, ma non mi sto preoccupando. Io ho risposto a una domanda, il curioso era lei, non io. Allora, Paola, scusami, lascialo perdere, sempre mi dice sempre queste cose qua. Io voglio capire una cosa, ma tu, per esempio, in questo periodo anche di solitudine, ami molto masturbarti a casa o no? Perché la gente vuole anche immaginare quello che fa Paola Saulino. Allora, se te lo spiego subito, innanzitutto io tra le tante cose che faccio, visto che tu hai detto tante cose, faccio l'influencer e sono una brand ambassador di prodotti di autoerotismo. Pertanto io ho un arsenale a casa, capisci? Cioè, quindi non solo Ma li usi per te? Non spendo neanche i soldi, assolutamente li uso, certo. Io non voglio promuovere un messaggio che non condivido, ci mancherebbe. No, ma li usi anche per il tuo piacere personale? Io sono una fanatica della masturbazione, io credo fortemente nel piacere autoprovocato, quindi non solo li uso, ma li consiglio pure di utilizzarli. E ce ne ho di tutti i tipi, sia il classico dildo, quello che noi vogliamo chiamare, che entra dentro, sia una serie di vibratori esterni dal succhia clitoride, eccetera. Vabbè, comunque, ragazzi, la cosa fondamentale, mi sembra, in questo periodo è questa cosa del pacchero, della botta, del piccolo schiaffo. Ragazzi, non è una cosa violenta, è una cosa che può procurare. Ma io sono la peggiore delle femministe, quindi non potrei mai dire una cosa contro il genere femminile, per cui io mi combatto, cioè io combatto per ottenere potere come essere umano, poi di genere. Senti, ma Conte il presidente del Consiglio, che ha molto, molto seguito tra le lettere, è uno che ti faresti, uno che ti piace, ti fa arrapare? Allora, sì, siccome a me le cose che mi piacciono non sono sempre effettivamente belle, ma sono eccitanti, devo dire che il nostro premier ha un atteggiamento molto erotico, e io anche ieri durante una diretta ho detto mi farei felicemente rompere da Conte. Ma addirittura? Ma sì, è un rompere veramente molto emotivo, una connessione di tipo intellettuale, emotivo, nonché sessuale. Quindi vabbè, si farebbe fare qualcosa di, diciamo, di sessuale, erotico. Ma cosa dice? Perché io sto dicendo che vorrei essere riempita, perché io miro un sesso che non quota, ma che riempie, perché sono una filosofa. Ma guarda che non è una cosa... Mamma mia! No, perché, David? Vorrebbe essere presa da Conte. Qual è il problema? Ma in tutti i sensi, gli piace. Tu sai che ci sono un sacco di gruppi di fan, di ragazze di Conte. Sì, fa parte di questo gruppo qui, diciamo la verità. Senti, hai mai girato qualche piccolo porno che si può vedere su Pornhub o cose di queste due? Proprio un porno vero e proprio? No. Di porno, sì, io credo che attualmente il porno la facciamo tutti quanti noi, perché abbiamo tutti quanti telefoni pieni di porno. Poi magari non so voi, probabilmente no, però insomma non voglio offendere, perché magari voi siete un po' sensibili oppure moralisti, ma noi moralisti noi tutt'altro, però io ho il telefono pieno di però tu non li hai fatto personalmente, non hai fatto nessuna scena, diciamo. No, l'industria del porno mi vorrebbe, ma col cazzo che ci vado, ma a parte che non ci stanno soldi, poi io voglio diventare ricca nella vita, ma poi io l'industria sono io, non ho bisogno di scopare per essere pagata, io non voglio barattare il mio piacere con il lavoro, io il cazzo lo prendo per piacere, ne vado fiera. Ciao tesoro, ciao tesoro, ciao Paola. Ciao! Ciao, ciao. Ci voleva questa svolta erotica verso la fine della trasmissione, caro Dito, vuoi riassumere un attimo, allora. La signora Ornella Mariani, ecco, quella, sì, ascoltatori vari, camionisti, eccetera sì, il signor Russo, non so cosa, da Palermo, diciamo, uno il rivoltoso che incitava la rivolta, esatto, una in conclusione